sessualmente ambiguo, è ambiguo, perché da quello che fa capire gli piace anche un trans. A me il trans proprio non esiste. A Cruciani piacciono i trans? Ma lui l'ha dichiarato, cioè che se dovesse capitare un trans non avrebbe problemi. Quando chiama quella turca, il turco, come si chiama? Efebal. Efebal. Eccoci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Efebal. No, non ho detto gioia. Ma dati il culo, fratelli! Ma dati il culo, fratelli! E non è così, ma dati il culo, fratelli! Ma dati il culo, fratelli! E sono in tre che hanno scoperto quanto è divertente il giovedì notte fare la rima Salvini-Bocchini. Diablo dice: Matteo, ma pippi cocaina? No, Diablo, non pippo cocaina, non ho mai sfiorato cocaina, non ho mai sfiorato cocaina. Pippi cocaina? No, Diablo, pippi cocaina? No, Diablo, no, Diablo, Diablo, Diablo, pippi cocaina, pippi cocaina, pippi, pippi, pippi, pippi, pippi cocaina, pippi cocaina, pippi cocaina, pippi, pippi, pippi, pippi, pippi cocaina. Pronto? Cruciani, ciao, senti una cosa. Io ti ho già chiamato un paio di volte, sono un tassista. Mi hanno rapinato tre volte. Io ti dico che se avevo il cannone li ammazzavo tutti e tre. Bravo Ettore, bravo. Vabbè. Bravo Ettore. Dilli a quel testa di cazzo di Parenzo, cosa devo fare io? L'hai rapinato tre volte, si è fatto il porto d'armi e adesso vuole sparare. Lo vuoi evviva. Criticare? Evviva, allora. Mi dica che taxi è, così non lo prendo intanto, primo. Secondo, evviva. Tu sei già venuto sul mio taxi, testa di cazzo. Perché non mi hai detto niente, coniglio, allora, se sono venuto sul tuo taxi? Perché non mi hai detto nulla, coniglio, quando dire? Sono salito? Ma che ti doveva dire? Al telefono sei bravo, coniglio mannaro sei! No, coniglio! Sei tu, coniglio. Coniglio! Li hai presi i miei soldi sul taxi, però, Li hai presi! Senti un po', testa di cazzo! Ti ho portato a te la Lombardia, testa di cazzo! Tu un imbecille che non sei... Se ti becco per strada, ti investo e ti ammazzo! Testa di cazzo! Sono Giuseppe Cruciani, io resto in Italia. No, c'è il problema anche del budget! È normale, è normale! Via Monterosa 91, 20-149, batto come Spatalino, Milano, eccoci qui, applausi. Bunker del Mossad, mi sembra collegato David Parenzo, eccoci qui. Buonasera, buonasera cari amici del festeggiare della giornata in cui 172,7 miliardi di fondi verranno dati all'Italia. Ma il ancora con queste Europea, robe qui? Grazie, ma chi Bruxelles, se ne frega? Grazie a Bruxelles, battuti i sovranisti anche questa volta in Europa. Andiamo avanti, guarda. Andiamo avanti. All'Italia andrà la fetta più grande degli aiuti e tu come al solito ignori questo tema. Tu sei una persona che sta distruggendo sistematicamente questo paese. Stai distruggendo l'assetto industriale, l'assetto morale, l'assetto politico di questo paese. Sei un... E la domanda che io anche questa sera giovedì 28 maggio mi faccio è come mai, contro me stesso la faccio come mai si consente alla più importante associazione di categoria, chiamasi sì, Confindustria, come mai questa associazione consente a questa emissione di andare costantemente in onda e distruggere il paese? Come mai? Questa è una domanda che ancora che una volta ossessivamente rivolgi. Mi faccio. Sì, ossessivamente. Ossessivamente. A te stesso e anche ai nostri, sì, ai nostri, al nostro editore, no? Esatto. Come? Allora iniziamo subito, ragazzi, dal Parlamento. Bene. Oggi da un signore che si chiama Moles di Forza Italia, che viene accusato di sessismo. Ora, ragazzi, io non ne posso più, ve lo dico subito, non ne posso più che ogni parola sia considerata sessismo. Quando si parla con un termini magari magari un po' eccessivi o nemmeno eccessivi, in questo caso termini assolutamente normali come verginità, facendo un paragone tra credibilità e verginità, si viene assaliti: sessismo, vergogna, sei una vergogna, ti sei rivolto così a un ministro, sei sessista, sei macista, hai offeso. Allora, un signore di Forza Italia che manco conosco, che si chiama, ripeto, Moles, oggi credo in Senato, ma potrebbe essere alla Camera, non lo so, non mi interessa, è un parlamentare di questa Repubblica, ha detto che la credibilità è come un paragone, è una, come dire, una metafora. La credibilità è come la verginità, una volta che si perde non si può più riacquistare. Tra l'altro è anche un po' una cazzata, perché in realtà uno può cadere come credibilità e poi risollevarsi. Invece, certo, la verginità, una volta che si perde non una si può riacquistare. Questo non però c'è errore non anche c'è questo, errore anche questo, perché in realtà, come sai, c'è gente che si fa ricostruire l'imene. Ci sono persone, vabbè, donne che si fa. Si può anche riacquistare la credibilità. No, ma, capito? La verginità si può riacquistare in realtà. Forse posso dirti una cosa? È più facile riacquistare la verginità della credibilità. Cioè, volendo, vai da un chirurgo plastico e ti fai. È un altro grande tema, beh, questo. È un altro grande tema. Ecco, secondo voi è più facile riacquistare la verginità o la credibilità? Perché la verginità, alla fine, vai. Alcune persone lo fanno, vai da un chirurgo plastico e ti fai ricostruire l'imene, se magari hai un uomo fissato col fatto, pare che succeda in diversi paesi asiatici, che uno si faccia ricostruire l'imene per arrivare vergine al matrimonio. Vabbè. La credibilità mi pare più complicata. Comunque l'accusa di sessismo, ragazzi, è ridicola. Sentiamo. Le ricordo, signor Ministro, che la scuola ha bisogno di credibilità e la credibilità è come la verginità, è facile da perdere, è difficile da mantenere ma impossibile da recuperare, signor Ministro. Caro Moles, non sei al corrente delle evoluzioni della scienza e della chirurgia contemporanea. La verginità, ti ripeto, caro senatore di Forza Italia, è recuperabilissima. Recuperabilissima. Basta il chirurgo. Tac. Allora, a me piace tantissimo questo scontro tra Sala, il sindaco di Milano, e il presidente della regione Sardegna. E io sono dalla parte, devo dirti la verità, vedi che non mi interessa la parte politica, perché Solinas è del centrodestra, è anzi un leghista sardo, mentre Sala è del PD, è milanese. Ecco, anche io invece sono col leghista sardo, col presidente della regione. No, io sono con Sala, che dice senza perché i milanesi hanno creato la Sardegna, il turismo in Sardegna. Dunque Solinas, vabbè, non rompa i coglioni con questo passaporto, ma anche per loro, turistico, devi salvaguardare che è i turisti che vanno lì. Tra l'altro, e questo è il punto. Boccia ne ha detta una giusta, pare che sia anche contro la Costituzione, non esiste questo passaporto sanitario che ogni regione vuole creare, una puttanata inaudita. No, andrebbe creato ragione a livello nazionale, appunto, ma una specie nazionale, di ma quando mai? Ma se i test non sono affidabili, hai letto che nemmeno i test, beh, quelli vabbè, là sierologici allora, sono affidabili. Allora si va al buio, nulla allora è affidabile, allora nulla, va, nulla, che nulla è affidabile, niente. Tu vuoi far credere che siamo nella notte in cui tutte le vacche e sono poi, nere. E poi dice Sala che si ricorderà delle regioni, sembra. Si ricorderà delle regioni che chiedono la patente di immunità. No, è giustissimo, vendetta assoluta, dai. Vedo che alcuni presidenti di regione, come per esempio Toti, il presidente ligure, dice: accoglierò a braccia aperte i milanesi. Altri, non li cito, dicono: bah, magari se fanno una patente di immunità o qualcosa del genere. Ora qui parlo da cittadino, prima ancora che da allora primo cittadino. Io però, quando poi deciderò dove andare per un weekend, giusto, o per una vacanza, me ne ricorderò. Bravo, all'attacco, così si fa, finalmente, all'attacco, cazzo. Una cosa giusta l'attacco? Detta dalla Sala in questi mesi. Ma all'attacco. Attacco? Ha detto anche l'attacco? Io in vacanza. Oh, ma quell'attacco? Ha detto anche io in vacanza, dove mi chiedono il test, non ci vado. Anch'io farò così. Se mi chiedono un test, non ci vado, andate a fare in culo, io non faccio nessun test. Ma guarda che anche per la non tua mi rompete salute, ma e qual per è la mia salute? Tua non rompessero il cazzo. Perché se mi chiedono lì, un test, non ci vado. E non hanno sufficienti terapie intensive per e dirò curarti, a tutti di non andarci. Un problema. Se in Trentino, meta dove io vado, vado spesso, mi ecco chiedono obbligatoriamente. Ecco no, la marchetta, ma che marchetta ecco di che? Non c'è nessuna ecco marchetta. Non ho citato nulla. Una trasmissione. Ma non, quale non c'è nessuna marchetta. Una, ma quale una, marchetta? Ma quell'albergo dove vai sempre. Ma non sempre ho detto gratis, nulla, ho detto il tallone vero, pago. Ma non è Ortisei. Una cosa incredibile. Guarda, allora, è una trasmissione incredibile. Ragazzi, posso dirti una cosa? Allora, se il Trentino dovesse chiedermi, se il Trentino dovesse chiedermi una patente, una qualsiasi cosa, ti è col cazzo che ci vado e inviterò tutti a non andarci. Dunque, non rompessero i coglioni in Sardegna con queste anche patenti ridicole che non esistono, le patenti sanitarie, l'assicurazione. Come che no? Tu non hai il Covid, amico mio, non esiste l'assicurazione che uno prima non ha il Covid. Prima di partire non ti esiste. Fai la... Se arrivano, se arrivano e mi vogliono plasma, fare un tampone, no, mi facessero un tampone a spese loro. Se arrivo e voglio fare un tampone e risulto negativo, se risulto positivo, mi devono pagare 15 giorni in Sardegna. Se vogliono, 15 giorni in Sardegna. Cruciani che insulta le vecchie è meglio di un anilingus fatto da un transessuale. Voi lombardi dovete restare confinati nella vostra regione di merda e tutti i test farmacologici che il governo vuole fare deve farli su di voi. Siete una massa di viziosi, tossici e culattoni e come avete generato l'HIV, ora avete generato il coronavirus. Negli ultimi tempi, Parenzo, mi stai piacendo tantissimo, sei un grande, lotta, lotta, sei fortissimo, mi piaci le tue idee, mi piace come ti vesti, le tue occhiaie, grande, grande Parenzo, grande David, sei un grande, lo dico senza ironia, ciao David. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701, scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Allora ragazzi, poi dicono che le donne sono soggiogate dagli uomini o cose di questo tipo, la prevalenza dell'uomo, la realtà è che è esattamente il contrario. Esattamente il contrario. Io ho raccontato ieri la storia dell'ombelico. Uno diventa praticamente succube di questa roba qua. Diventa totalmente dipendente dall'odore, dall'afrore dell'ombelico di una donna. In questo caso dall'afrore della formaggella dell'ombelico, che ha destato scandalo, che, come se fosse una cosa strana. L'afrore meraviglioso che c'era in quella formaggella dell'ombelico. Dunque è l'uomo a essere sottoposto a una specie di schiavitù, l'uomo a essere completamente sottomesso alla donna. D'altra parte in un libro si legge che c'è il caso di Eracle, cioè si fa risalire la sottomissione dell'uomo alla donna ai tempi dei tempi. Eracle, l'eroe del mito, simbolo di virilità e non di meno schiavo per 3 anni di Omfale, credo che si pronunci così, regina della Lidia, per la quale accettò di vestirsi da donna e di vivere in castità. Oppure il vecchio Aristotele, sottomesso alla sua amante Fillide, che voleva cavalcarlo e dominarlo. O ancora la storia di Socrate, che come raccontava Diogene Laerzio, veniva umiliato dalla moglie Santippe, che gli gettava addosso il contenuto del suo vaso da notte. Il contenuto del suo vaso da notte. Allora, di questo non parla mai il professor Fusaro. Come mai il signor Fusaro non parla mai di questa pipì che veniva rovesciata da Santippe? No, ma infatti c'è anche il detto trippe a pranzo, trippe a cena, certo. Dio per Socrate, che pena si diceva rispetto dai, a Santippe. E dai, su, dai, Porro dalla parte invece di Solina, Porro, se no dalla parte di Solina dice attacca Sala su questa diatriba tra il sindaco di Milano e il presidente della Sardegna. Sala da una parte chiude gli aperitivi, dall'altra dice non si va in Sardegna perché vogliono il passaporto sanitario, non capendo che sono tutti e due figli della stessa identica cultura chiusurista e di incapacità di affrontare il rischio del virus. Chiudi gli aperitivi e dici che c'è un problema e che è un disastro questo virus e che i ragazzi non possono prendere gli aperitivi, però vuoi che tutti i tuoi ragazzi che non prendono gli aperitivi a Milano possono andare da Solinas in Sardegna a farsi gli aperitivi. Ma insomma, mi spiegate la logica? un po' è vero quello che dice Porro, cioè dice prete Sala che ha rotto i coglioni con gli aperitivi a Milano dicendo che è un disastro, ma è più un weekend simile e dopo le 19 non si può prendere una bibita, no, un alcolico ma... da sport eccetera, e poi però vuole assolutamente che i milanesi vadano in Sardegna in libertà. Ora tra le due cose non è che c'è modo, un gran legame, però è vero se appunto, tu sei, bravo, se tu sei timoroso, però, sì, però è vero che se tu sei timoroso, non c'è nessun legame, se dai. Tu sei timoroso su una cosa, cioè temi il grande, il ritorno del grande contagio da una parte, poi non è che puoi subito andare a rompere i coglioni al presidente della Sardegna, questo un po' è vero, dai, su, Ogni giorno purtroppo ci sono altrettanti contagi di AIDS, ci sono altrettanti contagi che non sono contagiosi ovviamente, ci sono altri contagi per altre malattie virali, ci sono purtroppo altrettanti casi di tumori che vengono diagnosticati, oggi un po' meno perché gli ospedali pensano soltanto a questo, noi con 584 contagi, noi diciamo che stanno aumentando i contagi e che l'Italia deve essere tutta chiusa. Comunque ci è sfuggito qualcosa ieri nella discussione con la signora Martani, che oggi mi hanno fatto notare, no? Ieri sera, un punto fondamentale sì. Era la crescita del pelo sulle gambe. Cioè oggi credo che lei abbia pubblicato anche una foto, cioè anche una foto da qualche, in qualche social network, non so quale, forse l'Instagram, in cui c'è questa peluria, c'è questa peluria sulle gambe. È una cosa incredibile. Mi sembra agghiacciante. Ma perché a me agghiacciante? Sembra agghiacciante. Cioè, ha una sua originalità, ha una sua originalità. Beh, una sua originalità. Sì. Allora, ci voleva naturalmente Sgarbi sui commercialisti contro Saviano, non poteva mancare, amico mio. Non poteva mancare Sgarbi contro Saviano. Da che parte sta il professore? Beh, il professore. Secondo te dalla parte di Saviano, no, che accusa saperlo. I commercialisti non di essere il tramite saperlo, tra le guarda. Aziende che stanno per fallire e gli usurai? Dai. Mi chiedo, ma i commercialisti si fanno insultare in questo modo? Non vorranno ribellarsi all'idea che qualcuno di loro sia colluso con la mafia e ne sia lo strumento? E sento uno che con rancore attacca una categoria di persone che io ritengo oneste. Commercialisti, ribellatevi. Chiedete cosa vuol dire quella denuncia che vi fa passare per complici della mafia. Qualcuno di voi vuol pentirsi e dire che è vero o volete rivendicare la vostra dignità e la vostra onestà? Aspetto che i commercialisti ascoltino quello che dico e abbiano la forza di reagire a questa offesa, a questo insulto, a questa violenta azione di diffamazione. Comunque ragazzi, il fatto che dei virologi non se ne possa più che non se ne può più è identificata dal litigio che c'è in Veneto tra Crisanti, che era considerato, io voglio sposare Crisanti, uno dei padri della soluzione. Beh, Veneto, e il presidente Zaia, professor presidente Crisanti, Zaia dice che va troppo in televisione. Lui dice tra l'altro che lui invece è stato quello che ha creato tutto, è stato quello che ha l'iniziatore del piano. Zaia dice che ci sono anche altri eccetera, è una roba di visibilità totale, cioè questi qua che erano il nulla prima, cioè erano il nulla, beh, erano nulla, dei professori, ma non erano del nulla, non erano conosciuti, erano grandi, non erano tutti scienziati, non erano ma, conosciuti, figurati, Burioni era già conosciutissimo, alcuni molto non prima. Erano conosciuti, hanno avuto un loro momento di celebrità, Palù, e adesso Palù, ma chi cazzo lo conosce, ma chi lo conosce? Ma tu perché non conosci niente, l'unica cosa che conosci ma è lo squirt e quelle altre cose lì. Senti Crisanti, Palù è conosciutissimo. Tra l'altro forse su questa ragione che l'applicazione sarà una montagna di soldi buttati, quella la famosa applicazione Immuni che forse dovrebbe funzionare all'inizio di giugno. Ma quest'app così come concepita avrà il 19% dei casi, che effettivamente mi lascia un po' perplesso. Ecco, per, se, se tutto va bene, se partendo sempre dal fatto che il 60% la scaricano, perché non è detto. Poi guarda, se la scarica al 50% siamo al 25% dei tracciamenti, una montagna di soldi buttati, ecco. Una montagna di soldi buttati, i virologi uno contro l'altro, è stupendo, è meraviglioso. Antioco da Cagliari, ecco, sentiamo i sardi che si incazzano subito. Antioco da Cagliari, intanto un consigliere comunale a Roma. Pronto? Bestemmia in diretta, sentiremo tutto dopo. Non la bestemmia, naturalmente. Sì, bestemmia. Caro Cruciani, ti volevo dire, sì. Volevo dirti che ti dovresti informare prima di dire le puttanate in diretta. Su che cosa? Esatto. Scusa, spiegami. Perché non si parla di passaporto sanitario, si parla di che cosa, scusa? Di un tampone da fare 3-4 giorni prima in qualsiasi posto e certificato da un medico. No. Ma certo, ti rimborsano certo. Quando vieni in certo. Antioco, con un bonus. Antioco, con un bonus. Se volete una specie di bollino che che io ho fatto, altre persone hanno fatto il Covid, e ti attacchi al cazzo, capito? Dovresti lavarti la bocca prima di parlare. Tu hai quel testa di cazzo di sala. No, che no. Di quest'anno si bagna il culetto all'idroscalo di Milano. Antioco. Antioco, già i tedeschi già non l'ha portato lui. Lui ma è che c'entra? Cretino. A parte, Antioco, ti dico subito questo: se voi volete che uno arrivi là con il bollino, sono Covid, sono Covid free, vi attaccate al cazzo. Vi attaccate al cazzo, è chiaro che vi attaccate al cazzo. Se no, voi volete, Covid free, basta che faccia un tampone. Ma il tampone lo fai tu, ma il tampone lo fai. Il tampone me lo fate voi all'arrivo, volendo. Se volete fare questa cosa, non so nemmeno se sia legale farlo. Ma vaffanculo, voi noi. Non ne vogliamo fare i soldi con i turisti, glielo rimborsiamo. Te le rimborsano pure. Bravo, certo. Antioco, ma non è questione di soldi. Il problema è solo uno: puoi spendere, volete una specie di passaporto? Ma che prodotti tipici, un cazzo. Volete una specie di bollino o passaporto? Chiamalo come vuoi, una specie di bollino. Che io sono sano, ti attacchi al cazzo. Nessuno lo farà. Nessuno, ed è giusto. Benissimo. Verranno altri col bollino. Che non serve a un cazzo. Il bollino non serve a niente, perché magari. E si riferisce a 20 giorni prima, non serve a niente, rincoglionito. E allora che cazzo lo fai a fare? Cosa lo fai? Di parlare di passaporto sanitario. Vabbè, ma lascia perdere quello che sarà, lascia perdere, non è importante. Un pezzino di boccia che non sa neanche cosa dice, parla sempre. Ma perché lo sta zitto? Fermola. Oh, grande Cruciani, anche tu mi hai aiutato a smettere di drogarmi. Sono pulito da 6 mesi quasi. Non tocco cocaina e crack da 6 mesi. Sono veramente un'altra persona. Ho salvato qualche dente. Vi ringrazio, grazie a tutti. Ciao, arrivederci. Sento le voci, sì, mi sento chiamare. Dalle mie fantasie, dal profondo del mare. Dei sogni inconfessabili. Sento le voci, sì, mi sento chiamare. Dalle mie fantasie, dal profondo del mare. Dalla TV, dalle porcherie. Dal silenzio dei sogni inconfessabili. Demone scimmia. Demone, perché ha chiamato oggi? Com'è la situazione lì in comunità? Ma solita merda. Un dottore chiamato un dottore. Cosa? Qui c'è un ragazzo che muore affogato nella palude. Quando? Del Nazional Popolare. Davi! Non vedo la lucetta rossa. Come mai? Tycoons are running round the town, let's chuck him and hide him. Prosperity needs fucker if you cannot inspire. You're running round in circles, what the hell do you require? Il grillino palermitano che rivuole Gottardo. Affanculo tu, Gottardo e Parenzo. Affanculo, grillino, affanculo. Grillino palermitano, ma che fine hai fatto? Figa, Parenzo ti ha dato una pettinata, ti ha lisciato il pelo. Tu l'hai votata, uè, pirla, svegliati! Ah, che coglione! Parla l'italiano, imbecille! Niente, Giuseppe stamattina che sogno un zeppato male a pigliare a parola a tutti quelli che camminano con la mascherina all'aperto, sotto sole, soli nel marciapiede con la mascherina messa. Ora può finirsi nei pigli a parola e ci faccio levare la mascherina. Che devo fare? Devo svegliare le menti, Giuseppe, perché un paese ricchio e mi sento ridere pure, scusami che cosa, un pennolone, se tu cuci, chi minchia ti scusi con me? Ti devi scusare con te stesso, non che ti scusi con me. Giuseppe, correggimi se sbaglio, non faccio bene a svegliare le menti delle genti malate che sola all'aria aperta camminano con la mascherina. Dimmi se sbaglio, Peppi, perché io si impazzino, credevi. Cosa? Il grillino. grillino palermitano, l'ex grillino palermitano, caro Parenzo. Che battaglia l'altro giorno che hai fatto, che battaglia incredibile. Con cui avete una, mi pare, stabile amicizia, direi un affetto stabile, direbbe Conte. Ma guarda, hai posso dirti la verità, voglio bene, a Nino, ex grillino palermitano, voglio bene alla alla sua esuberanza, alla sua sincerità, se vogliamo. È una persona qualche volta che esprime delle idee un po' roboanti, un instabile. In un altro contesto diremmo un instabile. Ma perché è un instabile? Dai. Perché? Comunque l'altro giorno, ma non c'è bisogno di argomentare. La vergogna che sei di fronte ai comunisti, ai signori dei CARC, quali comunisti? È un partito di comunisti molto piccolo, naturalmente, che ha scritto Fontana assassino, e io non so se non abbia responsabilità poi nella questione della Lombardia, quello vedremo naturalmente. Io l'ho attaccato. Sei stato zitto quando ha detto che il suo modello è l'Unione Sovietica, sei stato molto soft con questi signori che risentiamo. Dopo la nostra intervista la scorsa settimana, non solo per questa intervista, è scattata la scorta a Fontana, che io credo che sia leggermente esagerata, come tutte le cose. Non esagerata per niente, perché alcuni gruppi sono veramente pericolosi, non so se i CARC, e comunque fosse successo dall'altra parte, avremmo gridato alle commissioni di indagine sull'odio, avremmo gridato al fascismo, eccetera. Un piccolo gruppetto di comunisti, dichiaratamente comunisti, con la falce e martello, che odiano i capitalisti, hanno parlato di porci di Confindustria qui in questa emissione radiofonica. Tutto passa in cavalleria. Fosse stato un gruppetto di Forza Nuova o un piccolo gruppetto di criminali dall'altra parte, ma non dare notizie false. Ci sono indagini della procura. Sono andati a manifestare sotto la regione l'altro giorno. Ovviamente io sono a favore delle manifestazioni. Fino a quando vanno solo con dei volantini a manifestare è un discorso. Sei stato molto leggero quando si tratta di comunisti o presunti tali. Ma giustamente, come dice Mughini, per diffamazione. Giustamente, come dice Mughini, questi sono una parodia, naturalmente. Come dice Mughini, sono una parodia. Sono semplicemente dei cretini. Certo. Senti, ma non ho capito, ma voi veramente avete rivendicato questa cosa di Fontana assassino? Abbiamo rivendicato una scritta, certo. A Fontana assassino, non dico che è un'incitazione, ma quasi, siamo lì. Uno dice Fontana assassino. All'odio. 15.000 morti cosa sono? Incitazione a cosa? Questo è un discorso semplice da capire. Dunque, per la responsabilità di aver mandato dei malati di Covid messi all'ospedale nell'RSA, quello vedremo. E sono morte complessivamente in questa regione 15.000 persone, c'entra? Che grosso modo è il 5% dei morti mondiali. Ma stai dando dell'assassino a un presidente di regione senza prove, senza alcuna prova ancora. Quali sarebbero le prove? I morti? Io dovrei dire assassino, certo, a te che vuoi il comunismo. Ma siamo cruciali, ti mandiamo a lavorare, che per te forse è la stessa cosa. Non hai capito? Che ti fa cagare lavorare. No, io lavoro molto più di te. Io lavoro molto più di te. Io lavoro molto più di te. Ma non ti ammazziamo, noi ti mandiamo a lavorare. Io lavoro molto più di te. Tu non mandi a lavorare nessuno, non ti preoccupare. In un paese normale, io non dico nella Russia sovietica, che quello sono livelli che quello che vorresti tu, quello che vorresti tu. Sviluppo dell'umanità. La Russia sovietica è sviluppo dell'umanità, ma vergognati. Oggi sarebbe alle misure cautelari. Costituzione alla mano, io dico quello che cazzo voglio. Ma tu, infatti, per fortuna, perché c'è la democrazia, però. Quindi, perché c'è la democrazia. Il problema, quello che io dico, non dico, questo no, è un problema. Amico mio, guarda, io sono contrario a qualsiasi indagine su di te della Digos e della polizia, non ti preoccupare. Uno che scrive Fontana assassino con la falce a martello, per me è semplicemente un coglione, punto e basta. Ma scusa un secondo, ma tu mi hai chiamato per darmi del coglione? Anche. Io non posso scrivere, ammesso che sia stato io, perché chiaramente non posso rivendicare che ci sia stata una scritta che dice Fontana assassino. Che fai, il paraculo? La tua libertà d'espressione? Che fai, il paragulo? Che fai, il paragulo? No, che dici non siamo stati noi? Ti sto facendo capire che sei un coglione. Giorgio D'Ancona, vai Giorgio, vai, avanti tutta. Sì, ancora Giorgia la cantante da Ancona. Chi? Sono io, cioè sì, Michele Caruso e voilà. Ma vai a fare in culo Michele Caruso, imbecille. Ascolta, ancora con Michele Caruso, ma non ti vergogni di quello che hai detto sulla Lombardia fino a poco tempo fa? Ti dovresti vergognare. Bruttissimo. Che volevi i morti del nord, eri esultavi per i morti del nord. Vergogna di Michele Caruso, vabbè. L'America di Trump, no? Ma non è l'America di Trump, tutta di Trump. Paradigmatico a cui ispirarti, per prendere esempio noi italiani. come, come prototipo di libertà, dopo che adesso Trump è diventato editorialista, adesso si è trasformato da telefonista in social network, perché dei Twitter avrebbero detto che lui si è trasformato da disturbatore telefonico in un agente di polizia. Si è peritato ancora una volta di soffocare un nero dove è imperante il razzismo. Io vorrei sapere dove arriverebbe. Poi tu a dritto e rovescio stasera, che sarei del debbio, vai ancora a Johnny Fletcher a prostrarti al cospetto di lui, perché si sa qual è il tuo orientamento ideologico politico. Sei la quintessenza del nulla, miserimo idiota, vaffanculo. Ma che cazzo dici, imbecille? Questa testa di cazzo, insomma, questo sei. Su questo sei pure d'accordo tu, tra l'altro, vai a prostrarti, capito? Michele Caruso, ti giuro, guarda, io vado ai matti con Michele Caruso, perché Michele Caruso si sta trasformando. Ma tu ti rendi conto che però ti rendi conto che però attrai tutti questi personaggi? Ma guarda che Michele Caruso, posso dirti che chiamo ovunque. L'altro giorno ha chiamato, prima pagina su Radio 3, la trasmissione tutta precisa, no, ti giuro. Ha chiamato prima pagina su Radio 3, ti giuro. Diciamo la verità, ottima trasmissione. Non l'hanno riconosciuto, e l'hanno fatto passare. No, ma non ha detto vaffanculo alla fine oppure troglodita muori. Cioè, ha cominciato a parlare di politica, ti giuro, quello dice grazie, buonasera, eccetera. Se si vuole trasformare. Sì, si vuole trasformare Michele Caruso da incursore in galli della loggia, ma dai, ma come si fa? Ma dai, Pasquale da Bari, vai, Pasquale da Bari, vai. Che paese, vai. Ragazzi, dimmi, che Pasquale, paese. Dimmi, Pasquale, vabbè. Pasquale, Pasquale, ma chi è questo cretino che non risponde più al telefono? Peppino, sì, guarda sto cretino, senti sto cretino, senti, Pasquale, Peppino, dimmi. Peppino? No, Marco dalla provincia di Catania, dai, Marco dalla provincia. Devi di Catania. Devi telefonare bene, però. Imbecille. Marco, sono, dimmi. Ci sono, sì. Dimmi. Allora, partendo da questo piccolo presupposto, io solitamente sono sempre d'accordo con Parenzo, sono contro di te a morte, però devo dire che questa volta sei stato abbastanza lucido, perché, caro Parenzo, ma se i sardi non hanno il turismo, che cazzo fanno nella loro vita? No, niente, no, no, le pecore, la proposta, pecore, così come è stata spiegata, non è così sbagliata. L'idea di dire tu parti per la Sardegna, fai il test e poi ti rimborsiamo. Il test è molto semplice. Non puoi limitare l'accesso alla Sardegna a chi fa il test. Vergognati. No, ma scusami, è anche a tutela del turista che ci va. Ma non dire cazzate, Marco. Allora, mi sembra una discussione. A parte fare un moderatore fra tutte e due, voglio dire, il tampone ha una valenza per un paio d'ore. Io posso farmi il tampone e arrivare che sono negativo e poi magari mi prendo il COVID. Ma sì, ma è ridicolo. Poi tra l'altro si fare, lì, se non è discorso, ma come fa Cipro? Lo Stato di Cipro ha detto: perfetto, venite a fare le vacanze qui. Se qualcuno di voi si prende il COVID, le vacanze ve le paghiamo noi. E guarda quando i turisti vanno in Sardegna o in Sicilia, ad esempio. Io sono siciliana, Lampedusa, ad esempio, senza turisti, che cazzo dovrebbero fare Lampedusa? No, ma infatti la Sicilia se ne guarda bene da mettere delle imposizioni di questo tipo. No, ragazzi, invece no, purtroppo non, si non è così. No, guarda che posso dirti, che Musumeci vuole copiare Solina. Non lo so, per adesso non ha detto niente di definitivo. Posso dirti una cosa, questa cosa qua non si farà. Non si farà perché è illegale. Io in Italia vado dove cazzo voglio. Io in Italia vado dove cazzo voglio. Che lo voglia per tutelare anche la tua salute. Ma non mi interessa. Che lo voglia Solina o no. Io vado in Sardegna come cazzo mi pare, chiaro o no? Stai mettendo il rischio, porca di quella gran puttana. Non è che tu parti e c'è il rischio zero, lo sai. A maggior ragione se sei lombardo. Sai che ti stai prendendo un rischio per te e per gli altri. Pure gli svizzeri, vacanze, pure gli svizzeri che adesso vogliono aprire, vogliono aprire, tranne che gli italiani mandassero a fare in culo, ragazzi, pure. Ma dove stiamo andando a finire? Parenzo che approva una proposta sovranista di cultura. No, ma non è una proposta sovranista, è una proposta ridicola che non ha nessun tipo quella regione. Primo perché i testa non sono affidabili. Ma un modo per tutelare le ma non c'è nessun modo, non dire regione, cazzate, non c'è nessun modo, perché i testa primo non sono affidabili, non sono certi al 100%, e poi non è che per passare da una regione all'altra ti devo dare una patente che peraltro non vale. Chi me la dà sta patente, ragazzi? Ma no, non diciamo ridicolaggini, su, i test non sono affidabili e tu sei l'unico che grazie alle tue marchette sei riuscito a farti io il test, fatto, intanto sì, ho capito, appunto, appunto, questo. Appunto, quindi eccoci. Figa Crucio, che sottobosco romano hai fatto scoprire al pubblico. Ma questi sono peggio degli aborigeni, cazzo. Ma ci manca solo che vanno in giro a strapparsi gli arti e mangiarseli tra di loro. Ma che cazzo sono sta gente? Come vive? Ma porca puttana, nel Medioevo gli avrebbero tagliato gambe e braccia e buttato in un fosso a sta gente. Padre, figlio e tutti quanti. Oggi torna così, raga. Se vi siete salvati alla diretta, siete miardati. Fratellino! Fratellino, prendi il muro, fratelli! Una piatta terza marcia, fratelli, non c'è problemi, fratelli, il problema c'è, c'ha un neurone solo, sa dire, te dico fermati, fratelli, cioè, due parole sa dire in italiano lì qua, e non sa neanche guidare, guida come il mio cazzo, io facevo il doppio di lui alla società senza distruggere niente, ma che cazzo, ma come è messo questo qua? Tre parole sa dire, in croce, tre, te dico fermati, fratelli, sono andato a sbattere, fratelli, non so, bah! Master Gianluca da Livorno, avanti tutta ragazzi. Gianluca da Livorno, vai Gianluca, Gianluca, vai, dimmi. Gianluca, dimmi. Ciao, buonasera. Dimmi Gianluca, dimmi. Buonasera. Volevo buonasera. Dire solamente pena di morte alla corruzione, alla mafia, all'andrangheta e alla camorra. Vabbè, questo è un discorso vabbè, generale, va bene. Fai la guerra con l'esercito e quando le prendi le devi fare una pena di calcinacci, le devi cavare questo, tutti. Questo è un provvedimento, questo è un provvedimento è diciamo estremo di fronte ai mafiosi. Già basta il 41 bis, secondo me. Li togli tutti i soldi e li dividi tra tutti gli italiani, così che salvi questo, l'Italia. Questo adesso non esageriamo. La confisca dei beni esiste già. Schiacciato da questi stronzi. Questo non c'è dubbio che siano degli stronzi, non c'è dubbio. Questo è vero. Che siano degli stronzi, non c'è dubbio. Guardi, lei ha perfettamente ragione. La ringrazio, la ringrazio. Legalizziamo queste droghe leggere. Questo è vero, quello sono d'accordo. Tutte le droghe non lo so, ma quelle. No, aspetta, mi sembra un po' alterato però questo signore. No, è un po'. Hanno dato 7 anni allo zar della droga, quello che aveva levato anche le droghe leggere, gli hanno dato 7 anni per concussione, lo sapevate? Insomma, adesso lo zar della droga, 7 anni mi sembra anche poco, dipende che cosa. A lui e altri due gli hanno dato 7 anni per concussione e aveva tolto anche la droga leggera, quella che ha la CBD. Vabbè, l'erba. Ma qual è il problema adesso? Qual è il ma com'è, com'è così il problema esperto, è che io ho tirato lei fa uso, di droghe leggere? Italiano mafioso, ma mi dico, no? Lei fa uso di droghe leggere? Mi sembra anche io droga posso pesante. Fare anche uso di droga leggera è anche pesante, mi sembra. Grazie Gianluca, no. Grazie. Sì, non so se Parenzo è un po' imbarazzato da questo ospite che non viene in questa disgraziata trasmissione da un po' di tempo. Io sono imbarazzato per la gente che telefona, non per gli ospiti. Potrebbe la essere gente imbarazzato che anche da questo ospite che casualmente è anche il suo editore. Meraviglioso. E non è il Sole 24 Ore. Optime. E non è il signor Bonomi, neo presidente di Confindustria. Cioè. Uno dei due editori del signor Parenzo si chiama Urbano Cairo, che abbraccio e saluto. Buonasera. Come buonasera. Stai Urbano? Diamoci del tu. Noi mentre Parenzo le darà del lei, diciamo, facciamo per forza, sempre del tuo anche Parenzo. Allora, caro Urbano, ti voglio subito chiedere una cosa. Sì. La prima domanda che ti faccio è sul campionato, perché molta gente subito una domanda difficile, Sì, qual è il segreto del suo successo? Facciamo subito una domanda così, Parenzo, di piangeria, una domanda sto scherzando, viene. Qual è il segreto del suo, scusi, straordinario successo? Scusami, non vorrei che poi venisse. Sei veramente un pezzo ragionico. Andiamo allo sport. Caro Urbano, voglio chiederti subito una cosa. Allora, tu sei stato tra quelli che di più hanno detto in questi mesi: beh, è meglio non ripartire. Poi ti sei convinto, forse, da quello col che leggo, calcio, ti sei convinto. Oggi forse varano i calendari. Hai ancora dei dubbi? Oppure no? Ma no, ma non è che io, diciamo che io nel momento in cui si decide di partire, evidentemente sono nel metto in testa e in pista alla grande per cercare di fare al meglio. Ah. Tant'è che oggi ero a Torino e ho visto la squadra, ho visto il mister, ho visto Vagnati, eccetera. Quindi insomma, io sono assolutamente in pista. Dopodiché, in un certo momento mi sembrava che fosse opportuno non farlo. Adesso se le cose vanno meglio, insomma, tutto dipende da dai dati, non c'è dubbio. Cioè, oggi tu sei carico per la ripartenza oppure sei ancora un po' scettico? Io nel momento in cui si riparte sono carichissimo. Tant'è che oggi sono stato appunto a Torino ho visto la squadra, ho parlato alla squadra, ho visto il mister, ho visto Vagnazzo. Sei convinto che possa finire il campionato? Questo ti posso dire. Cioè, sei convinto che una volta che si riparte si possa finire? Giuseppe, questo è una cosa che non la sa nessuno, perché, questo è vero, perché purtroppo, ma non la sa neanche, che ne so, il presidente degli Stati Uniti, che dovrebbe essere la persona più informata. No, nessuno sa come andrà a finire e quanto e quali saranno i tempi per uscire dal problema del coronavirus. Oggi chiaramente si vuole ripartire, è giusto anche farlo da un punto di vista, come dire, anche di ripartenza, perché l'hanno fatto in Germania, lo faranno in Inghilterra. In Inghilterra il 17 giugno hanno fissato la data, in Spagna ripartono prima, noi probabilmente ripartiremo. 13 giugno o 20 giugno si dice, 13 giugno o 20 giugno pare. Sì, appunto, io non so esattamente quando sarà, però nel momento in cui fosse siamo evidentemente in pista. Cioè, la cosa che ti chiedo è questa: se trovassero un positivo nel Torino, che ovviamente non ce l'auguriamo, nessuno di noi se lo augura, ma se trovassero positivo un giocatore del Torino quando si ricomincia a giocare oppure in questi giorni, che succede? È vero, ci sono i protocolli? Cioè, tu sei preoccupato per la salute dei calciatori o no? Oppure pensi molto. Beh, era la ragione per cui, diciamo, dei calciatori e di tutti gli italiani, perché evidentemente questo è un tema che tocca a tutti. Io ero molto preoccupato e per questo motivo ero dubbioso. Dopodiché, siccome sono parte di una associazione, la Lega Calcio, dove ci sono 20 squadre e poi si decide, chiaramente io sono poi, nel momento in cui si decide, sono ovviamente super determinato a fare bene. Cioè, questo, secondo te, se trovano un positivo nel Torino si dovrebbe bloccare tutto? Cioè, si dovrebbe... No, ma dico, ma perché nel Torino? Dico nel Torino semplicemente perché tu sei presidente del Torino, è chiaro. E perché tu sei della Lazio, Cruciani. Sì, assolutamente. A proposito, se si dovesse ricominciare, tu che cosa preferiresti, dato che il Torino lo scudetto lo può vincere? Cioè, ci sono tre squadre che lo possono vincere. Diciamo la verità: la Juventus, la Lazio e l'Inter. Tu che cosa preferiresti? Una volta rientrando in conflitto di interesse. Non entro in questo. Dimmi tutto. Tutti tranne la Juventus, diciamo la verità, tutti tranne la Juventus. Si può dire questo? Il presidente del Torino lo può dire? Si può dire. Senti, una cosa che riguarda invece i playoff, tu li scarti? Cioè, se non si dovesse in te, tu una volta che si riparte si deve finire, diciamo, con questa formula, non è che si può andare... Io penso di sì, perché insomma i playoff e anche i playout dovrebbero essere in qualche modo stabiliti prima, perché poi appunto... ci sono una serie di motivazioni legate al fatto che ci sono campionati che hanno i playoff e i playout, ma lo sanno dall'inizio. Cioè, per cui è impossibile prevedere il fatto che si riparte e poi si finisca con i playoff, cioè una cosa senza senso. Ecco, ma poi anche perché io dico, nel momento in cui riparti non puoi fare il campionato, allora perché fare i playoff, cioè, o i playout? Se si interrompe, cioè, a un certo punto si interrompe. Perché evidentemente c'è un problema, e quindi non dovrebbe essere possibile. Oggi se dovessi dire quali percentuale daresti alla fine al fatto che si finisca questo campionato, quali percentuale daresti oggi? 80, 70, 90? Adesso guarda, è difficile dire, non mi fare dire percentuali, perché sennò poi se le dico basse vuol dire che io non voglio giocare. Secondo te, per il fatto che finisca il campionato, c'è stata una cosa, il Bologna sembrava che ci fosse un magazziniere contagiato, si blocca tutto, eccetera. Cioè, il mio timore, io che sono uno, come sai, un grande sostenitore del fatto che una grande azienda ricominci a lavorare, e tu hai grande aziende, ma deve ricominciare anche il calcio, anche se poi ci sono cose diverse, c'è il contatto, eccetera, eccetera. Certo, però dico anche che bisogna poi finire, per cui ti dico, cioè, che capito, cioè, oggi il presidente della Federazione Gioco Calcio ha detto alcuni fanno di tutto per non, forse c'è un riferimento anche a te, non ti voglio far fare polemica per forza, però non credo a me, perché io recentemente ho dichiarato che ero pronto a ripartire, quindi sicuramente non è un riferimento a me, e non lo prendo come tale, tant'è che sto dicendo adesso che io sono andato a Torino a parlare alla squadra e sei carico per la ripartenza, diciamolo. Sei carico, nel senso che sono determinato, perché nel momento in cui riparti devi essere convintissimo e devi trasmettere la convinzione a tutti i tuoi giocatori. Altrimenti qualcosina rischi pure tu, ma tutti rischiano, ma assolutamente nel momento in cui si riparte assolutamente lanci resta per fare. Ma secondo te i giocatori devono frequentare meno persone possibili in questo periodo che si ricomincia a giocare? Come tutti noi, no, ma in generale secondo te, diciamo che in questa è bene avere, se frequenti persone perché devi farlo per motivi anche lavorativi o per altri devi comunque sia cercare di avere, rispettare quelle regole, però limitare al massimo i rapporti con l'esterno sarebbe consigliabile ai giocatori in questo periodo? Ma un pochino sì, secondo me, tutto sommato, ma sarebbe anche una buona cosa dal punto di vista sportivo, sarebbero totalmente, cioè, per esempio, concentrati, più, cioè, per esempio, concentrati, i, più concentrati. I giocatori che sono normalmente dei grandi donnaioli, no? A meno che non siano impegnati, eccetera, eccetera. Ecco, tu diresti a un tuo giocatore in questo periodo stai un po' calmo, diciamo, stai un po' tranquillo. Ma, cioè, infatti, l'ho detto. Ah, l'hai detto. Certo, cioè, state un po' tranquilli. Cioè, se avete. No, io ho detto in generale, fate vita sana, fate vita da atleti, come già fate, ma ancora di più perché siamo in un periodo in cui giocheremo nei prossimi mese e mezzo, due, ogni tre giorni, sotto il sole cocente, cioè, quindi a maggior ragione state se siete fidanzati restiate monogami, insomma, cioè, no, no, perché questo è importante, però mi raccomando, ma non entra nelle lenzuola degli altri, presidente Caro, non è come te, scusa, non è come Cruciani. Comunque il calcio riparte il 26, Spadafora ha detto che riparte il 26. L'ha appena detto, il 26. Sì, però posso dire una cosa. Il 26 mi sembra sì, francamente un po' tardi. Posso dire, presidente? Cioè, ma l'ho detto anch'io, è un po' tardi anche secondo me. Però, cioè, il 26 è una roba ridicola, cioè manca ancora quanto. Cioè, perché il tema è se riparti il 26, alla fine quando finisci? No, ma luglio, no, il 20, quindi, luglio, attenzione, ma che mi diate notizie false, ragazzi? Ah. Il 20. Ah, il 20. Vabbè, Spadafora allora, ha deciso, la Serie A riparte il 20 giugno. È ufficiale, è proprio ufficiale. Ecco. Aspetta, ah, il 26, il 26, 20/6, in realtà è il 20 giugno. 20/06 era. Ah, 20 giugno, ok. Sì, 20 giugno. Vabbè, era una delle due date. Era, diciamo, una delle due date, sommato, sì. Ti dà anche un po' più di possibilità di allenarsi e di recuperare la condizione, il che tutto sommato. Cioè, il 20 le va bene, come date il 20 le va bene, cioè. Ma va bene, dai, se ormai siamo in ballo, balliamo, che devo dirti. Non sei molto convinto, Urbano, posso dirti? Cioè, no, hai detto che sei carico, però qualche dubbio ancora ce l'hai, perché secondo te... No. Io ho trasmesso oggi assolutamente una grandissima convinzione che dobbiamo assolutamente giocare. No, va bene, perfetto. Allora, posso dirti una cosa, Parenzo? Voglio fare una domanda sulla questione. Secondo te, che voto daresti al governo per la gestione della vicenda del coronavirus? Cioè, possiamo dare un voto al governo, secondo te? Cioè, tu che sei comunque... Secondo me, diciamo che c'è stata una gestione positiva dal punto di vista dell'azione abbastanza tempestiva nel lockdown, quando l'11 di marzo si è chiuso tutto, lo si è fatto in un tempo che poteva essere magari anche anticipato, ma tutto sommato, se andiamo a vedere l'America piuttosto che l'Inghilterra, eccetera, cioè abbiamo fatto bene a fare la chiusura. Si è fatto bene. Ecco, e nell'economia? Forse secondo me un po' troppi decreti, ne parlavo anche oggi, diciamo che lì ce ne voleva uno solo, chiaro, secco, tutto e basta, però poi insomma siamo anche in una fase... Nel complesso che voto daresti? La sufficienza la raggiunge il governo o no? Io direi di sì. Sei più. Siamo vicini al governo, in questa fase è molto importante stare uniti. Ma c'è un ministro... Se fosse al governo, una cosa che lei farebbe se fosse al governo, subito, così, una cosa fondamentale per l'impresa, che ovviamente non è stata fatta, una fondamentale. Beh no, dobbiamo dare a tutte, insomma, molte aziende hanno avuto grandi problemi, non hanno fatturato, hanno comunque sia costi importanti, eccetera. Dobbiamo dare liquidità alle aziende, che possa consentire a queste aziende di ripartire velocemente. C'è troppa burocrazia, c'è stata troppo. Forse sì, dare liquidità, togliere tutti gli adempimenti fiscali per un periodo abbastanza lungo, perché questo è un momento in cui le aziende a cui manca l'ossigeno devono avere l'ossigeno. Secondo me dobbiamo utilizzare meglio i fondi europei, perché questa è una cosa fondamentale. Avremo fondi importanti, dobbiamo fare tante cose, tante opere pubbliche, tante cose, spendere questi soldi. Allora, voglio chiedere a Cairo una cosa. È contento dei collegamenti che fa Parenzo dalla sua terrazza per la 7, spesso con le varie trasmissioni? Cioè, è contento che lui si colleghi dalla terrazza? Oppure è ora di farla finita con questi collegamenti dalla terrazza e di tornare in studio? Non sai niente, Parenzo, non si va in studio. Parenzo è un mio pupillo, non me lo tocca. E dunque lei è più orgoglioso di aver acquisito Parenzo o Giletti nella sua, nel suo Pantheon? Giocatori diversi. Giletti è un grande conduttore, sta facendo delle trasmissioni veramente di altissimo livello, e anche oltretutto ha toccato toccato tanti veramente importanti, l'ho sentito anche la magistratura. Parenzo, diciamo, Parenzo è un'altra roba, diciamo. No, Parenzo rispetto a Giletti, evidentemente molto più giovane, ha meno esperienza, però ha dimostrato di avere delle qualità. Allora, però è molto preoccupato, ma Davide. Devi chiedere no, è molto preoccupato. Posso rivelare una cosa? Chiedere altre cose. Aspetta, aspetta. Parenzo è molto preoccupato dal fatto che tu un giorno lasci l'editoria e scendi in politica. Ero veramente molto preoccupato. Ogni tanto mi chiede, ma non è possibile, io non ci voglio credere. Non ho mai chiesto niente. Lo puoi per favore? Non ho mai detto che lo farò. È vero, ma lo vuoi tranquillizzare che non lo farai mai, oppure mai dire mai? Cioè, questo è il punto. Beh, allora, io sono dell'idea che mai dire mai è una buona filosofia da seguire, perché nella vita non sai mai. Non sai mai. Però non sai mai. Io oggi dico che sono talmente impegnato, poi immagini adesso con la pandemia, con i problemi che ci sono stati, per cui è una cosa assolutamente... Dunque lo possiamo tranquillizzare. Siamo salvi. Lo possiamo tranquillizzare, Parenzo, per il momento lo posso tranquillizzare, benissimo. Per il momento lo posso tranquillizzare. Ma senti, perché Cairo è proprietario di giornali, televisioni, gli manca solo la radio. Perché non si compra Radio 24 e chiude la Zanzara, Presidente Cairo? Chiuda questa trasmissione. No, dai, no, mi piace troppo sentirvi, impossibile, non lo farei mai. Però potrebbe comprare Radio 24, amico mio. Cioè, perché? Ecco, sì, questo potrebbe. Sì. Non chiudere la Zanzara. Non credo che sia in vendita. Se fosse in vendita, lo faresti. Se fosse in vendita, Radio 24 è un asset bellissimo del panorama radiofonico italiano. Dunque diciamo la verità: se fosse in vendita, un pensierino ce lo faresti. La trattativa in diretta per l'acquisizione. Stiamo facendo in diretta. Bonomi sarà contento, presidente Bonomi. Una cosa incredibile. La cosa dai. Pazzesca, va bene, grazie presidente, grazie. Ciao, buona serata. Roberto da Perugia, vai Roberto. Una cosa incredibile, hai pure venduto Radio 24 al presidente Cairo. Molto bella questa intervista, però profonda. Bella, una bella idea questa. A te piacciono queste cose, Roberto da Perugia, vai. Dimmi. Ciao ragazzi, adesso distruggiamo tutto con gli ascoltatori. Sentiamo cosa hanno da dire questi. Dimmi. Ciao ragazzi, io volevo dire a Parenzo che il passaporto sanitario, a mio avviso, è una sciocchezza. Non si chiama passaporto, non è un passaporto. Cioè, già il fatto che non garantisce l'esito è negativo. Ma se io oggi faccio il tampone e per mia sfiga domani mi infetto, che succede? Vedi che non c'è. Cioè, ragazzi, stiamo scambiando l'infezione, cioè un'infezione, diciamo, la positività di qualcuno come una roba come una cosa simile alla lebbra. Non è così. Spesso questa cosa qua, ormai, tra l'altro, è difficile che qualcuno si prenda la polmonite di quelle che ci descrivono. È molto difficile, quasi impossibile. Questo per fortuna. Ma gli abitanti sardi, ce l'hanno tutti il tampone. Io vado giù da negativo, becco giù il virus, che faccio? Denuncio Solina. Ce ne sono pochi di positivi, però comunque. Comunque è a tutela anche di chi va, quello che lei non ha capito. Ma chi è che prenota? Chi è che fa il tampone il 1° luglio o il 10 luglio? Che se gli dice sfida, lui sta a casa, lui e la famiglia per 20 giorni. Ma chi è che fa il tampone a luglio, ragazzi? Ma stiamo scherzando? Una puttanata, dai, Roberto da Palermo, vai, Roberto da Palermo, dimmi Roberto. Crucià, ascolta, ho visto ultimamente delle foto che pubblicano i giovani su questa storia del ragazzo negro che è stato buttato col muro con la faccia a terra, può essere? Lo so, ragazzi, ora io dico, cosa? Ora io voglio non dire... hai detto niente su quello. E cosa devo dire? È successo in America, in Minnesota, ci sono ribellioni ovunque. Hai taciuto, sei pronto ogni giorno a citare il tuo amico Donald Trump e di fronte a un fatto come... Che c'entra Donald Trump che ha detto che si farà giustizia? Ha detto Trump, che cazzo dici? Trump ha detto che si farà giustizia? Sei sempre pronto a parlare di quello che avviene in America e non hai detto nulla di questo episodio drammatico, in incredibile, nulla hai detto, nulla. E voglio vedere se Mario Giordano ne parlerà stasera. Sono, ma voglio, cosa voglio c'è vedere, una cosa succede, successa nel Minnesota, voglio che cazzo ce ne frega noi? Del, e perché il Minnesota per non conta? Ma no, certo che conta. Ce ne frega noi questo, di quello che succede nel Minnesota? No, allora, questo bello, Floyd, questo bello. Floyd è gravissimo quello che è successo, per carità, lo sto seguendo, eccetera. Ci sono ribellioni ovunque, però ragazzi, bisogna anche otto dire... Otto minuti di agonia, otto minuti di agonia. Però quando i poliziotti vengono assaliti... Otto minuti di televisione, naturalmente. Ci sono i filmati, sì, Freccero, è vero. Cioè, lei è venuto, prima, si è quasi masturbato davanti a questa roba qua. Naturalmente, la prima cosa che dico quando c'è una tragedia, naturalmente, è c'è il filmato, naturalmente, c'è l'immagine. Cioè, non si preoccupa di quello che è successo, naturalmente, no. Dai, preoccuparsi, io devo fare la televisione, naturalmente, dai. Ma preoccuparmi, che si preoccuperanno i medici, i dottori, naturalmente. Io faccio un altro mestiere, che è la televisione, naturalmente. Allora, questi otto minuti come li ha visti? Eccezionali, solo in America, da trasmettere, naturalmente, un dramma. Naturalmente un dramma enorme, naturalmente. Sì, vabbè, ma ci sono delle immagini, ma ci sono delle immagini, ma ci sono delle immagini. E allora? E allora? Beh, facciamo la televisione, quello che facciamo sempre. Cioè, lei manderebbe in prime time, manderebbe in prime time su Rai 1. Volte, naturalmente, un grande dibattito, tutta la gente intorno che discute, lo mandiamo, lo rimandiamo, lo facciamo rivedere. Anzi, prima si fa tutto piccoli frame, piccoli frame. Piccoli no, prima si deve chiedere, naturalmente, lo volete vedere o non volete, o lo volete vedere. Quello, naturalmente, crea quella giusta attenzione. Naturalmente, sì, poi il risultato è scontato, naturalmente, risultato naturalmente si deve vedere, naturalmente si chiama televisione, naturalmente non siamo mica Montalbano, da comunque, Montalbano. E poi i frame, naturalmente parola per la prima la scaletta, ho già scritto naturalmente la scaletta, prima mezz'ora viene discusso con un'immagine un po' sfocata se far vedere naturalmente o non far vedere, il risultato è scontato, l'80% del pubblico dice vedere, certo. E quindi a quel punto si fa vedere, ma a pezzi, naturalmente, prima pezzettino, poi l'altro, l'agonia di Floyd. Naturalmente, è un dramma terribile, naturalmente, però noi stiamo parlando di televisione, naturalmente, il cinismo televisivo. Naturalmente, no. sì, è bene, Ciao Giuseppe, sono Giuseppe, niente, ma è ancora lì Fisichella, Farinella? No, Farinella no, è andato via, Ma perché, non me lo chiami un attimino? Te lo giuro, non te lo tocco, ti supplico. No. Ma perché piange? Io voglio, allora, ma non capisco, come parlo con questo Farinella? Ma ti spiego, non faccio nulla di male. Cari amici, buonasera, mi sono messo le cuffie, spero che mi sentiate. Se non mi sentite, datemi un segnale che capisco che c'è qualcosa che non va nella nostra diretta streaming. Benissimo, mi state sentendo. E con orgasmi multipli. Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Sono appecoronati e stanno ammazzando la popolazione italiana. Appaiono con le loro belle facce, mettetevi le mascherine. Ma non mettere le antenne! Invece di mettere le mascherine, non mettere le antenne! Il 30 maggio in ben 37 città d'Italia, e il 31 maggio a Bari, e il 2 giugno saremo a Roma, e non ce ne andremo da Roma. Fino a quando non puliremo l'Italia da queste radiazioni elettromagnetiche che ci stanno ammazzando. Ma preoccupatevi che vi stanno ammazzando, che è la cosa più importante. E se c'è un generale dei carabinieri, ora non più in servizio, che ha il coraggio di contrastare quel governo mentre tutti stanno scappando, voi dovete apprezzare queste attività coraggiose. Devo dire la verità che molti della Digos da noi avvicinati, che ci hanno da concesso tutte le piazze, sono stati molto affettuosi e disponibili nei nostri confronti. Madonna. Roberto da Palermo era con noi, non so cosa doveva dire, dire Roberto da Palermo, sentiamo, vai Roberto, vai. Si Roberto, passa ci sei o non ci sei? Sì, ci allora, sono. Che cazzo devo stare dicendo, non ho capito. No, io sto concludendo il ragionamento, se non mi avessi interrotto Parenzo, però c'era ragionamento. Fare. Allora? Ragionamento. No, ragionamento, Parenzo, allora, quando si parla di cose serie, tu... Non devi parlare, Parenzo, quando si parla no, di anzi, ma è lei che dice perché... ragionamento, ma quale ragionamento fa? Dai, forza. No, io stavo dicendo una cosa, cioè il fatto che la discriminazione, non sono queste presunte minoranze di negri a subirla, purtroppo siamo noi maschi, Cruciani, te lo devi mettere in testa. Cioè, in che senso? Scusa, perché, tre noi giorni maschi. Fa, non so se l'hai saputo, c'è stata la condanna col rito abbreviato di Sara Del Mastro. Sì, come no, una sì. donna sì, che ha buttato l'acido in faccia all'ex fidanzato, eccetera, benissimo, eccetera. Benissimo. E ha preso il solamente giudice, 7 anni, adesso non so il quanto giudice non gli ha dato nemmeno la sì, premeditazione. Ma no, posso dirti una cosa, Roberto, non è che non gliel'ha dato in quanto donna, diciamo, che purtroppo in questi casi come nel caso del ragazzino, dei due ragazzini uccisi dal matto con la macchina, dall'ubriacone tossico con la macchina a Vittoria in Sicilia, di cui abbiamo parlato ieri, due giorni fa, purtroppo la giustizia italiana ogni tanto di fronte a atti gravissimi come questi, perché una che rovina la vita a una persona buttando l'acido in faccia, da pochi anni rispetto alle pene che devono subire queste persone. Quindi se fosse stato un uomo sarebbe stato lo stesso, secondo ma te? Sì, ma che sono sappiamo, quasi ma certo che ne sa. Allora, ma che vuol dire? Ma certo. Ma secondo te la premeditazione? Ogni processo fa storia a sé. Ma che c'entra la premeditazione? Ma che ne sappiamo? Ogni processo fa storia a sé. Che c'entra uomo o donna? Ti porta l'acido nella borsetta e non è premeditazione. Ma chi sta dicendo? Ma non lo so. Questo qua sono cose processuali. Ti sto dicendo che secondo me non è che le hanno dato 7 anni o quanti le hanno dato semplicemente perché donna. Non penso. Spero di no, Roberto. E la Franzoni. Tutte le donne che ovviamente ricevono un terzo della pena. Parità di reato. Ma adesso. A parità di reato le donne ricevono pene che sono ridicole. Ma che dati sono? Di 100% maschio, di maschio 100%. Ma che cos'è? Ma che roba è? Allora no, questo mi ricorda. Si è fatto il suo centro studi questo qui. Il centro studi maschio 100%. Ciao Roberto. Ecco, ciao. A proposito di sottomissione, ragazzi, gli efebi spartani devoti alla dea Artemide e fustigati in segno di penitenza dalle sacerdotesse, o coribanti, i sacerdoti della dea Cibele, che si travestivano da donne e si flagellavano il pene per raggiungere il contatto con la divinità. Mamma. È così. Mamma mia. Ma come mai ti sei fissato con questa porcheria? Pratiche di umiliazione che raggiungevano l'apice nell'usanza di bere l'urina delle vergini per cacciare mamma il male, mia. Sulla base della convinzione che la purezza della fanciulla si trasmettesse anche nella sua secrezione. Mamma mia. Tu lo sai che Rasputin si umiliava pagando delle prostitute di San Pietroburgo affinché gli sputassero in faccia. Ma o addirittura Gandhi. O addirittura Gandhi. Gandhi si mortificava andando a letto con donne tutte nude, le quali tuttavia non gli si concedevano. Roba incredibile. Ecco. Si mortificava così. Vabbè, evviva. Luigi da Roma, vai Luigi. Tocca a me. Sì, vai Luigi, dimmi. No, dico, visto che c'è stata gente, potrebbe farsi in giretto per trasere, oppure che ne do testaccio, troppe se le trova che gli sputano in faccia, eccetera. Aspetta, vabbè. Aspetta Luigi, aspetta un secondo, devi avere un attimo di pazienza, un attimo solo di pazienza. Allora, è con noi, quasi alla vigilia della manifestazione che ha indetto in tutta Italia il grandissimo generale dei Carabinieri, in pensione naturalmente, ma pur sempre generale dei Carabinieri, Antonio Pappalardo, buonasera. Buonasera a Cruciana, a te, a Parenzo e a tutti gli amici. Buonasera. Allora, Parenzo, Cruciana, lasciami parlare. No, io ti lascio parlare, dico solo che si passa dal grandissimo Cairo al generale Pappalardo. Allora, dico generale Pappalardo, voglio chiedere subito una cosa, perché lei è così preoccupato dal 5G? Vado subito su una cosa, ma poi parleremo delle sue 5G, stai zitto un attimo. Parleremo poi delle sue manifestazioni che hai detto, dove si aspetta, immagino, una grandissima folla, immagino, no, generale. 33 piazze, una cosa incredibile, non ci avrei mai sperato. Una cosa enorme, adesso fa capire che il popolo si è rotto le scatole. Scusi generale, posso dire? Pappalardo è un numero, è il popolo che si è rotto le scatole. Io non me lo sarei mai aspettato, 33 piazze in poco tempo. Allora, scusi generale, scusi un attimo, lei può togliere l'auricolare, se no sentiamo poco, il viva voce, o l'auricolare o il viva voce, deve stare solo col telefono. Se no sentiamo male. Ecco generale. Generale Pappalardo. No, lo so, generale, però non si può fare con te. Lo so. Sì, abbiamo pazienza. Stiamo lavorando sodo e siamo anche stanchi. Lo so, generale. Sì, siete anche stanchi. Uno solo, come siamo? Perché dice al plurale? Perché siamo stanchi? Uno solo, lui da solo. Va bene, non sono io solo, è tutto. No, è uno staff, c'è uno staff. C'è uno staff, c'è uno staff enorme che gira, perché da solo non ce la farei a fare tutte queste cose. Scusi. Abbiate pazienza, è una cosa enorme. Generale, lei però si deve togliere viva voce all'auricolare, altrimenti non riusciamo a fare il collegamento. Ma non ho ah, adesso è meglio. Adesso è meglio. Allora, io non ho capito perché. Adesso mi sente? Sì, sento mi bene. Sente bene, perché sì, non ho l'auricolare, cioè non ho il viva voce. L'auricolare ce l'ha? Ha l'auricolare? Sì, l'auricolare l'ho messo. Viva voce no. Dovrebbe togliere l'auricolare anche, generale. So che allora, tolgo l'auricolare e prendo il viva voce. Deve mettere il telefono proprio attaccato alla bocca. Lo so che per lei, magari col fatto che lei è fissato col 5G, può essere una preoccupazione questa qua, però. Ma perché è così fissato col 5G? Che è un male. Ma non sono io, attenzione, non sono io. Sto ricevendo migliaia e migliaia di telefonate dei cittadini che sono tremendamente preoccupati. Quando uno legge poi che addirittura ci sono parlamentari europei che hanno sottolineato che non hanno fatto nemmeno l'esperimento per vedere se faccia nocevo o no. C'è un pericolo, per lei è un pericolo. Questo è un problema che va affrontato. È un pericolo. Sto solamente dicendo, perché prima non facevate l'esperimento per verificare se questo 5G andava bene. Ma secondo lei c'è qualche collegamento tra 5G e il coronavirus? Perché qualcuno dice di sì. Qualcuno, non io ovviamente, che non è che ho esperienza anche in questo settore, ma qualcuno dice che questo coronavirus è scoppiato proprio a Wuhan, questa città cinese, dove questo 5G si stava sperimentando. Qualcuno dice. Ecco, allora quante persone si aspetta le sue manifestazioni? Diciamo le sue manifestazioni. Ma diciamo questo, nessuno si aspettava 33 piazze. Ovviamente no, quando parlo, se no chiudo immediatamente. No, dica generale. Mi stanno chiamando da altre radio, quindi dica generale, dica. Fare un discorso corretto, perché sono chiuso. Dica. Dico al buon Parenzo che fa bene a scherzare, a giocherellare, perché così attira l'attenzione. La gente è con lei, la cosa che ti voglio chiedere, la gente è con lei, gli italiani sono. Non è con me, la gente è incavolata nera, non è con me. Vuole mandare tutti a casa perché pensa di essere stata tradita, prima di tutto dal Movimento 5 Stelle, che doveva rinnovare, aprire il Parlamento come una scatola di tonno, e non l'ha fatto. Tradito da quelli che fanno la finta opposizione, perché pensava adesso se ci pensiamo noi cambiamo, e la gente si sente tradita. Allora ecco, nel momento in cui arriva un generale dell'arma dei carabinieri che ha fatto un'onorevole carriera, alza un dito e dice c'è qualcosa che non va, la gente mi telefona e dice finalmente c'è qualcuno che ce le fa. Finalmente questo qualcuno con i coglioni, tutto, finalmente con i coglioni. Scusi. Questo è quello che dicono, ovviamente è vero o non è vero, non ha alcuna importanza. Ma lei sarebbe in grado di guidare l'Italia? Lei sarebbe in grado di guidare l'Italia in questo momento? Cioè, diciamo, io sono in grado di comporre grande musica. No, ma di guidare l'Italia, lei sarebbe in grado o no? Cioè, lei farebbe meglio di Conte? Questa è la domanda che voglio chiedere. Ma meglio di Conte sicuramente, perché avendo fatto il capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, so come gestire le risorse di un'organizzazione. Conte non mi pare che sia all'altezza. Per di cui mi sembra lavoro. Che lei faceva bene il professore. Attenzione, avrebbe fatto meglio a continuare a fare il professore universitario. Comunque, bravo. Mi sembra di capire che lei un paese mi sembra che non è qualcosa che lui riesca a fare. Mi sembra mi sembra in grado di guidare l'Italia, non so, cioè lei sarebbe in grado di guidare questo paese. Ma io certamente meglio di Conte, non ci vuole molto essere meglio di Conte. No, scusi, pure Parenzo arriverebbe a essere meglio. Se hai rudimenti generale, lei si è iscritto al partito No Mask, di quelli che non vogliono usare la mascherina. Il partito di quelli che la mascherina attenzione, noi abbiamo fatto un ricorso tribunale ordinario di Milano e di Roma di verificare se queste mascherine, come dicono professori di oggi, eccetera, fanno male. Abbiamo detto se fanno male non gliele fanno. Però lei ha detto più volte che fanno male. Lei ha detto più volte fanno male, adesso non si tira indietro. Fanno male, l'ha detto più volte. Sulla base di che cosa? Base di quello che dicono illustri virologi che ne sanno più di noi, mettere una maschera in bocca alle persone in ogni circostanza, in ogni frangente, e farli vivere sempre con questa maschera non è salutare. E non lo dico solo a Dio, lo dicono in tanti. Io a questo punto, siccome sono un uomo di legge, invece di abbandonarmi alla sciocchezza e alle cretinate, ho fatto un ricorso d'urgenza ai tribunali di Roma e di Milano. pubblico che mi dicano se è vero tutto questo, se è vero che il tribunale di Milano eccetera, che al giorno dopo tutti cammineranno senza mascherine. Scusi, generale, perché ci sarà un tribunale che dirà queste maschere fanno male. Però scusi generale, ma lei non fa troppi ricorsi, scusi, lei ha detto anche che vuole ricorrere contro i padri costituenti, che però non ci sono, ma più. Però mi sembra che attenzione, mi hanno dato ragione. Ma chi? Attenzione, mi hanno dato ragione perché hanno detto l'articolo 75 va tolto. La procura della Repubblica di Roma mi ha dato ragione. Ma non ci sono troppi ricorsi. Non l'ha fatto nessuno. La procura della Repubblica di Roma ha detto avete ragione, ma non siamo noi in grado a togliere l'articolo 75. Ma ricorrere contro i padri costituenti è un controsenso, generale, mi scusi se io lo dico. Loro che hanno sbagliato, perché all'articolo 1 hanno messo che la sovranità appartiene al popolo. Sono morti i padri costituenti, contro chi ricorre? Io sto anche zitto. Ma vede, lei non conosce il diritto, non conosce il diritto. Con chi devo ricorrere se non contro coloro che hanno messo quella norma? Certo, la procura della Repubblica di Roma ha risposto purtroppo sono morti e non sono perseguibili, però l'articolo 75 va tolto. A me interessava perseguire i padri costituenti o rilevare che questa Repubblica, che non vale un tubo, ha permesso che per 75 anni che al popolo italiano venisse rubata la sovranità internazionale. Io sono stato il primo a farlo, mentre gli altri sono stati a dormire, e la procura della Repubblica di Roma mi ha dato ragione. Comunque adesso la devo lasciare. Generale, un attimo solo, generale, aspetti, due minuti, mi ha detto, fermo, richiamalo subito. Generale? Luigi da Roma, chi c'era? Luigi, vai. Posso dirti, però non me, io gliel'avrei detto in faccia, sono terrorizzato, avevo i brividi, la pelle d'oca, sono terrorizzato dal fatto che questo signore è stato un generale dei carabinieri. Cioè, qui per un periodo piuttosto lungo i carabinieri sono stati governati da questo signore qua. Io sono terrorizzato. Un signore che se la prende con i padri costituenti, ecco che chiude, guarda. Pasquale da Bari, allora, vai, Pasquale. Che paese. Buonasera, sono Pasquale. Dimmi, Pasquale. Dimmi. Senta, io volevo rimproverarla, signor Fruciani. Sì. Lei ieri sera ha sminuito l'intervento della dottoressa Ilaria Capua. Sì, da sminuito. Ilaria. Molto ho detto male. Che erano delle banalità totali. Male. Esatto, però noi, grazie alle banalità dette dalla dottoressa e da tanti altri biologi, siamo riusciti a contenere e a fermare questo traccio di virus. No, certo, grazie al lockdown, amico mio, senza dubbio. Certamente non grazie alle risse tra i virologi, su questo non c'è dubbio. No, alle risse tra i virologi. Grazie ai consigli che la dottoressa e tanti virologi. La dottoressa Capua, posso dire una cosa, la dottoressa Capua, che ha tutto il mio rispetto, non ha dato consigli a nessuno, ha fatto giustamente il suo mestiere, che è quello di essere consultata da televisioni, da radio, da giornali, eccetera, eccetera, e in alcuni casi, secondo alcuni giustamente, secondo altri no, a farsi pagare anche in maniera piuttosto consistente per quello che ha fatto. Va benissimo, ma non ha dato consigli a nessun governo, non era consulente del governo. Lei non ha dato consigli al governo, lei ha dato consigli al cittadino di come comportarsi per evitare lavarsi le mani, distanziamento. La sua bambina, signor Fruciani, se sa queste cose, la mia bambina lo sa, forse grazie ai genitori che le hanno detto, sentendolo alla televisione ogni giorno, tant'è che quelli che si ammassano per fare l'aperitivo evidentemente non l'hanno capito abbastanza. Fermi lì, questo è il tema. Luciani, l'odore di formagella sull'ombelico, probabilmente prima di passare da te era stata con un altro e si era pulita male con le salviettine, no? E Cruciani, una delle cose di massima goduria è fare la cosiddetta piscina, ovvero sputare nell'ombelico della propria ragazza. Il problema è che non sempre ti viene concesso. Comunque in serata proverò ad annusare l'ombelico della mia ragazza. Saluti. Breaking news dalla Svizzera. Ieri, con tanto di comunicazione ufficiale del Consiglio federale elvetico, l'industria del sesso, così definita, dal 6 giugno riapre i battenti. Bordelli, puttane, unzoweiter. Siamo all'over the top. Ciao! Conte, dimettiti! Conte, dimettiti! Demetrio da Reggio Calabria, avanti tutta, Demetrio, vai. Buonasera. Dimmi. Io velocemente vorrei dire un paio di cose. Sì. Allora, la prima è che secondo me, secondo il mio modesto parere, se i primi casi di questo virus fossero stati in Calabria invece che in Lombardia, ci avrebbero mandato i carri armati e chiusi qua dentro e non fatti uscire mai più. Scusa Demetrio, però ti metti un attimo, ti colleghi un attimo meglio questo cazzo di telefono, per favore. Già abbiamo avuto un problema prima con Pappalardo, adesso pure Demetrio da Reggio Calabria. Cioè, mettiti bene con questa minchia di telefono che stai sembra che stai in una caverna, cazzo, dai. Però ci vuole rispetto per gli ascoltatori. Abdul Daber, mi ha rotto il cazzo. Abdul Daber, richiamatelo meglio sto cretino. Abdul Daber. Signor Abdul, signor Abdul. Sì, Abdul. Allahu Akbar, Abdul. Allahu Akbar. Abdul, intanto grazie per essere in Italia. Grazie per essere qui, Abdul. Grazie per essere qui. Abdul è un bergamasco. Grazie Abdul per essere in Italia. Che cazzo ne sai che è bergamasco? Abdul è un bergamasco da 25 anni che sono a Bergamo. Appunto. Sei islamico? Sei islamico? Abituati, abituati cruciani, abituatevi. È pieno di Abdul. Abdul in Italia, che sono italiani. Dimmi Abdul. Se Fontana e Galera hanno coraggio, devono dimetterci con i morti che sono stati a Bergamo. Per i problemi, per i posso dirti, non hanno alcuna intenzione di dimettersi, né adesso né dopo, amico mio. Non ti preoccupare. Sì, ma non solo loro, perché anche quelli che cercano nei comuni di Bergamo. Combinano tutti i colori. Ma va bene, tu pensi che si debbano dimettere, ma fai benissimo a dirlo e te lo lasciamo dire tranquillamente senza problemi. Ma se hanno coraggio devono dimettersi, perché se hanno la conoscenza pulita devono dimettersi con i morti che sono stati e l'errore che sono stati. Amico mio, ma che vuoi che ti dica? Non lo so, può darsi che gli errori sono tutti da dimostrare, tutti da vedere, ci sono le inchieste, eccetera, eccetera. Vediamo, cosa vuoi che ti dica? Certo, qualche errore è stato commesso, vediamo da chi è stato commesso, se dagli assessori, se dal presidente. A me non me ne frega niente, poi possono arrestare pure tutti domani mattina. Sapere cos'è accaduto è importante. Abdul ha la certezza che sono state fatte delle porcate, benissimo, alcune sono state anche Abdul documentate. Abdul è un cittadino italiano che vive a Bergamo. Abdul è un signore di origine non so dove, di origine marocchina. Oggi è un cittadino italiano del Marocco. Sei ancora islamico oppure diciamo le cose? Sei praticante. Dunque tu ogni giorno ti metti là a fare Allahu Akbar. Ma Allahu perché devi prenderlo in giro? Ho fatto le 5 preghiere anche al lavoro, non ho nessun 5 problema. 5 preghiere al giorno. Vabbè, Ma chi dà fastidio produce, lavora, paga le tasse. Che è venuto qui e fa dei lavori che tu non fai? Pago 800 euro al mese solo di tasse. Scusa Abdul, che lavoro fai tu Abdul? Io sono responsabile officina meccanica. Responsabile di un'officina meccanica. Bravo. E tu 5 volte al giorno ti metti lì a pregare. E chi dà fastidio? No, ma io dico non dà fastidio a nessuno. Ma uno può esserci una durante religione. Durante il giorno, anziché andare al sole 24 ore, stai a casa e chatti con le tue amichette, perché diciamola tutta, tutta. Anziché andare a lavorare, vai su Pornhub, poi chatti, entri in quelle robe dove ci sono quegli scambisti di coppie e quant'altro. Abdul, e tu lo fai più di 5 volte al giorno. Abdul invece prega là 5 volte al giorno. Non capisco dove sia e va al lavoro a differenza tua. Abdul, peraltro, tu hai la qualifica di inviato? No, Cruciani ha pure la qualifica di inviato. Guarda che incredibile. Vuoi fare la morale al povero Abdul, il quale lavora, si fa il culo, vive a Bergamo, è più italiano di te ormai, paga le tasse qui e non rompe i coglioni, soprattutto a differenza tua. Però posso dire una cosa, Abdul. Ora va bene tutto, per me va bene tutto, però una religione che prevede che uno preghi 5 volte al giorno. No, mi manda i matti, non mi dà fastidio, ognuno fa quello che vuole nella vita. Si può pure fermare 5 volte in un bordello, non è quello il punto, invece di pregare, non è quello il punto. Ma lui però vado ai matti che uno preghi 5 volte al giorno. Mi farai pensare che è una cosa folle pregare 5 volte al giorno? Ma puoi pensare quello che vuoi, signor Cruciani. Ma per te chi è il signor Allah? Chi è Allah per te? Questo voglio capire. Allah chi è? è il creatore dell'universo. Il creatore dell'universo, il signor Allah. E che ti deve dire? Tutto dipende da Allah. Tutto dipende, la nostra vita dipende. Sì. Tutto dipende da Allah. Ma non dipende da Allah. È un esame che stanno facendo su questa terra. Insomma, non è, però scusa, non è che tutto quello che noi facciamo dipende da Allah, amico mio. Non può dipendere tutto dal signor Allah. Alcuni peccati lo conviniamo noi. Alcune cose male lo facciamo noi, come uomini peccatori. Ho capito. Ma tu sei a favore anche della poligamia, Abdul? Sulla? La poligamia, sei a favore della poligamia? Cosa vuol dire? La poligamia, più mogli, un uomo con più mogli, come succede in diversi... Assolutamente, sì, ma adesso non puoi, cioè, dipende, dove vivi... Però non sei contrario, non sei contrario diversi alla poligamia. Non sono contrario, ma adesso non posso. Beh, certo che non puoi, in Italia non puoi, su questo non c'è dubbio. Ma non solo quello, ma anche se forse in Marocco non lo faccio, perché già per mantenere una moglie e figli non è così facile. No, solo per quello infatti, non è un problema solo per quello effettivamente. Ciao Abdul, ciao. Allora, in collegamento, non so da dove, credo dal confine svizzero, un imprenditore italiano, un manager italiano che è il gestore di un grande bordello che si chiama Maxim, che si trova in quel di Chiasso, se non sbaglio, in quel di Chiasso. Stefano Taroni, più volte ospite di questa disgraziata trasmissione, e che ci spiegherà cosa sta succedendo. Facciamo chiarezza per i puttanieri italiani. Ciao Stefano, ciao. Ciao Giuseppe, ciao David, ciao a tutti. Allora, sono in quel di Como in questo momento. Sei a Como. Allora, voglio capire una cosa. Allora, ieri ci sono arrivate notizie della riapertura di bordelli svizzera il 6 di giugno, giusto? È così il 6 di giugno? Giusto, il via libera è dal 6 di giugno. Allora, si potrà scopare solo a Pecorino o no? È passata questa follia o no? No, è una cazzata incredibile, no. Non è passata. Non l'hanno neanche valutata, una sciocchezza del genere. Beh, una puttanata proposta non so da chi, e che ovviamente... Dunque, saranno possibili tutti i tipi di rapporti. Dunque, non ci sarà limitazione da questo punto di vista, è importante. Gli italiani, che poi tu senza italiani, come fate lì a Maxime? Siete morti, diciamo la verità. Senza italiani... Diciamo la verità, è un buon 80% della clientela. Appunto. Gli italiani, fino a, addirittura qualcuno dice che dopo il 15 la Svizzera non riaprirà l'Italia. Dunque un casino anche lì. Cioè, come allora, come la Svizzera dovrà aprire comunque al massimo il 6 luglio, però stanno spingendo per aprire il 15 di giugno. Bisogna anche vedere la situazione lombarda, perché se bloccano la Lombardia per due settimane, questa sì è una priorità. Come non è una priorità? Dalle chiamate che arrivano è una priorità assoluta. Io capisco che lei vive, diciamo, no, così non per me, per tutti i clienti e le ragazze che chiamano è una priorità assoluta. Ma i clienti e le ragazze, ma certo, assolutamente. Questo signore qua si è inventato un mestiere che è l'evoluzione di quello che una volta era il mestiere di gestire. No, ho detto di quello che una volta era l'evoluzione. Una volta è l'evoluzione. Lui ha avuto questa intuizione di farlo in un paese nel quale si può fare, quindi ha creato un bel ambiente, ha preso queste ragazze che volontariamente. Ma non ha preso nessuno, quello fa il manager, mica il proprietario. Comunque, vabbè, allora. Ma fa il manager di questo locale e ci sono queste ragazze che, diciamo, affittano il loro spazio lì dentro. Perché questo esatto. È, credo, no? Sì. Affittano il loro spazio. Lui è un hub. Lui è come. E lui quindi usa, diciamo, lui vende lo spazio a queste ragazze. Vabbè, allora quello che fanno queste ragazze, lui se ne frega. Ecco, io trovo aberrante. Vabbè, ma questo il è un discorso che vecchio. Uno. Ecco, però questo è il discorso. No, ho capito, per cui con tutti i problemi che ci sono, ma dire è che adesso riapre questo roba come qua. Fosse la notizia del secolo, come fosse la notizia del secolo, mi sembra una cosa ma in Germania è fondamentale. Esatto, fondamentale perché cosa? Sia per l'economia di quelle per zone clienti, lì. Per lui per è ragazze, fondamentale, che fa il manager per lui. Ma guarda, per me noi siamo in cassa integrazione, per fortuna la Svizzera ci ha tutelato fin dal primo giorno. Soldi subito. Non, anche agli imprenditori che hanno avuto bisogno e abbiamo avuto aiuti, quindi non è tanto per me, è per i clienti e le ragazze, ti dico, arrivano centinaia di chiamate. E le ragazze in questo momento dove sono le ragazze? Cioè, le ragazze alcune sono a casa, alcune sono in Italia a fare il lavoro abusivamente negli appartamenti. Ma come faranno a rientrare? Non devono fare la quarantena quando rientrano? Facciamo la registrazione e se aprono dipende tutto dalla Lombardia. Se la Lombardia viene bloccata, allora c'è il rischio anche per un ticinese, per uno svizzero che entra in Italia per ricongiungersi con i familiari, torna in Svizzera, rischia di fare la quarantena. Dal 3 giugno ha dichiarato Di Maio, di Conte, di aprire le dogane, ma la Svizzera assolutamente non è stata d'accordo, perché non è stata avvisata, probabilmente verrà aperto il 15, probabilmente. Sono voci corridoio. Comunque, a questo vabbè, punto però accesso libero. Sì, ragazzi, il problema è questo: ci sono una marea di puttanieri italiani, di gente, di clienti dei bordelli svizzeri che non vedono l'ora che i confini riaprano. È un fatto, è un dato. E ci sono, e c'è tutta un'economia in Svizzera, in quei posti lì, uno se ne può fregare, che vive di questa roba qua. Sia da parte delle prostitute che vivono di questa roba qua, e non capisco perché Parenzo le consideri lavoratrici di serie B. No, sono lavoratrici, no, loro, come mi dispiace per loro, mi dispiace, capito, per il lavoro che fanno. Scusa, ma è vero che vogliono limitare l'accesso a mezzanotte, fino a mezzanotte? Sì, l'obbligo per il primo periodo sarà a mezzanotte, il massimo 300 clienti a serata. Massimo 300 clienti? Ma cosa? Scusa, ma anche questa cosa qua è una follia, massimo 300 clienti. Beh, cosa vuol dire? Come in tutti i posti bisognerà contingentare gli ingressi, non si capisce perché. Sì, contingentano. Ma certo, come al cinema, come se tu vai su in un vagone di un treno. Sì, ma no? Se uno si prende il Covid, se lo prende lo stesso anche con 300 persone, no? Ma che roba è? Cioè, il contatto c'è uguale. Più che altro è l'orario, però. Ma mezzanotte, ma che roba è? Dai, mezzanotte, ma è una follia, dai, su. Cioè, è una roba senza senso. Scusa, c'è qualche prostituta che si è infettata che tu sappia? No, assolutamente no. Cioè? Infatti molte, cioè, molte mi scrivono e mi chiedono: ma conosci qualcuno che è deceduto? E... no. Perché da noi assolutamente niente. Loro in Romania non hanno. È un gestore di queste ragazze. È un gestore di chi affitta il proprio corpo. Ma qual è il problema? Non ho capito. Qual è il problema? Non ho capito qual è il problema, infatti. Cioè, ma non è la stessa cosa fare l'amministratore delegato della Barilla e fare l'amministratore delegato di un posto dove si affittano delle ragazze. Alla Barilla gli sei costati parecchio, mi direi. Facciamo no, un altro voglio esempio. Dire. Appunto, però, fare l'amministratore delegato di un grande gruppo agroalimentare. Ma è vero che verranno tracciati i clienti o no? C'è l'obbligo di tracciare il cliente, cioè di prendere il nome, cognome, numero di telefono, e quello è un problema, vedremo come risolverlo. Perché? Perché è un problema? Come mai è un problema? Se fosse una cosa così normale, come mai? Io quando vado al cinema non avrei nessun problema se per caso qualcuno dicesse: è entrato Parenzo al cinema. Nessuno. Perfetto, perché se Parenzo, per il Covid qualcuno lo dicesse. Nel mondo dell'arcobaleno, dell'unicorno, ma nel mondo reale uno che ha la moglie a casa e vuole fare una sveltina... ha voglia di liberarsi e di fare una schiappatella, vuole che si venga a sapere a casa che è stato in uno di questi locali. È sempre meglio venire in uno di questi locali piuttosto che fare una relazione extraconiugale che porta alla distruzione del matrimonio. Assolutamente. Quindi dai, sarebbe meglio andare sempre con la stessa donna, con la propria moglie, e non tradire. Però questo è il mondo irreale. No, ma io mica dico, Stefano, quando dici una cosa, se uno deve essere tracciato lasciando nome, cognome e tutto, certo potrà, cioè un italiano, ma qualsiasi altra persona, può avere dei dubbi sul fatto di andare in un bordello quando le frontiere verranno riaperte, no? Cioè, questo mi pare evidente. Se uno deve lasciare le proprie tracce, magari non viene, no? Cioè, o no? Potrebbe essere. Non sappiamo ancora come reagiranno, lo vedremo solo all'apertura. Comunque, ragazzi, questa cosa che la Svizzera ancora non si sa quando apre le frontiere con l'Italia è una roba da pazzi, diciamoci la verità, una roba da pazzi, sì. Da pazzi totale. Ciao amico mio. Ma anche per i ticinesi. A presto. Ciao, sono incazzatissimi. A presto, ciao caro. Conosci tutti i presidenti come Putin. È vero. L'Italia sporco. Guarda. L'Italia è sporca. Sì. Sì. Ovunque dobbiamo rispettare le regole. Voi le rispettate lì al campo della Magliana? No. Un appello serio a Susanna: smettila di andare per strada e fatti un sito come fanno tutte le stronze qua a Milano, guadagni di più, sei più sicura, e vaffanculo a questo Stato che permette un'attività che comunque non verrà mai eliminata di essere gestita solo dalle mafie. Se vuoi ti aiuto io, Susanna, costa pochissimo, fai un bel sito, quelle foto del tuo bel culo sodo e tutti i tuoi clienti te li prendi o in casa, magari in un luogo che non è casa tua, o vai tu a casa loro. Basta stare per strada, lasciala la mafia dello Stato la strada. Susanna, sito e bel culo, tirati su, non ti preoccupare, guarda che guadagni di più che in strada tramite il sito. Lo so che a te piace l'odore della strada, la natura, la bicicletta, ma fidati che tramite sito hai più clienti, più visibilità e soprattutto sei anche più sicura. Ma è vero che lei vuole uscire dall'euro, come ha detto l'altro giorno George Soros? Ha detto Salvini vuol portare l'Italia fuori dall'euro. Ma essere un avversario di uno degli speculatori che ha affossato l'Italia e gli italiani negli anni passati, per me è un onore. che uno speculatore che ha rovinato milioni di italiani e milioni di cittadini in giro per il mondo dica che il pericolo è Salvini, vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro. Nicolas mi dice: la canna da pesca infilala nel culo. Chiaro che per 2, 3, 4 mesi stai chiuso in casa e l'unico modo per informarti non è fuori dal coro, ma è quel TG1 dove parlano a reti unificate sempre gli stessi, è difficile raggiungere le persone. Però, ripeto, più che ai sondaggi io guardo al futuro degli italiani. Quindi non c'entrano gli occhiali, il nuovo look, no? Beh, ma gli occhiali, amico mio, se non ci vedo la sera quando torno a casa e non leggo i messaggini sul telefonino o non leggo il libro, perché sono presbite e capita con l'età, vado dall'ottico come milioni, non penso che tu abbia gli italiani perché ti danno il tocco chic, immagino no. Che tu abbia gli occhiali perché ti servono per leggere. Assolutamente. E quindi sì. Non ho i superpoteri, ogni tanto sì. Ho problemi di vista anch'io. Sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. Le grandi interviste di Mario Giordano. Ma gli occhiali a che cosa le servono? Sembrava la battuta che ho fatto prima io a Cairo, quella. Come battuta l'ho fatta, però. Qual è il suo più grande successo? Sembra uguale praticamente. Mi racconti qual è il suo più grande? E lui con Salvini. Ma perché ha gli occhiali? Una domanda, voglio fare una domanda scomoda. Come mai lei porta gli occhiali? Attenzione, però, una domanda scomoda che le voglio fare. Come mai lei porta? I suoi detrattori dicono che sia per moda. Giuseppe Mamma D'Asti, mia. Vai, Giuseppe D'Asti. Ma e tu muto. Ma che devo dire? Zitto, cioè, che devo dire? Giuseppe zitto, D'Asti, zitto, vai. Zitto, Giuseppe. Zitto, allora, una mi scrive: anche il mio fidanzato è un fan della piscina ombelicale, con la variante di infilarci poi dentro il dito per ricreare l'effetto sonoro bottiglia stappata. Sì, però io non capisco la tecnica. Uno sputa dentro l'ombelico della propria fidanzata o partner occasionale. E che devo dire, quello che ha detto prima l'ascoltatore? Con la variante poi di infilarci il dito per ricreare l'effetto sonoro della bottiglia stappata. Ma che roba è? Ma quale bottiglia? C'è una variante in realtà che non voglio dire, una variante un po' hard che non è sputare, diciamo. No! E vabbè. Giuseppe D'Asti, vai. Giuseppe D'Asti, pronto, mi sentite? Dimmi Giuseppe, dimmi. 22 minuti di attesa per intervenire a parlare con due cazzoni come te. Sì, Giuseppe, non rompere i coglioni e di quello che devi dire, dai, su, senza rompere troppi i coglioni, imbecille, dai. Imbecille, ascolta, intanto è mezz'ora fa volevo dirti qualcosa, no? Dimmi, ma puoi dire quello che vuoi, anche attaccarmi, dire quello che ti pare, cioè criticare, no, fare, certo, tirare, fa tutto quello che questa trasmissione si può fare di tutto, per cui vai. Ti ho già chiamato altre volte, ti ho già detto l'articolo 21 della Costituzione nella tua trasmissione esiste. Sì. Non devi, no. Vabbè, allora dimmi, dai. Allora, intanto, Abdul, sì. Sto coglione. Perché coglione Abdul? Che ha detto? Perché? Che ha fatto? Dico, chi ha fatto? Adesso, questo bergamasco è un bergamasco, quindi ascolta, è un italiano. Parenzo, stai zitto, io parlo solo a gente laureata come Cruciani, non con te. Quindi parli solo con Cruciani? Perfetto, questo vabbè, Giuseppe, grazie, dai, che uno come lei parla solo con Cruciani. Dimmi, dai. Allora, ascoltami bene. La gente qua che fanno tanto. Ma perché è così permaloso questo qua? Dai, perché su, così permaloso? Giuseppe, vai ma avanti. Perché sto dai. Psicotico è così permaloso? Dimmi. Parla! Allora, sto cazzo di Abdul. No? La gente qua fanno i musulmani in Italia, sì. No? Fanno Ramadan, fanno adesso hanno Ramadan. Ramadan, si chiamano Ramadan. Vabbè, come l'hai chiamato, sì, scusa? Ramadan. Ma vedi che non sai niente. Perché devi insultare le religioni degli altri? Perché devi insultarle? Ascolta. Io ti dico, Sei un gran maleducato. Siccome non sai niente, sai solo insultare. Quindi insulti una religione di cui non sai nulla. Sei un coglione, quel pitu. Vabbè Giuseppe, ascolta. Dai, allora andiamo al sodo. Dunque, quello che fa il Ramadan. Io ho un collega albanese che fa l'ambaradan lì, quella il Ramadan. Non è difficile, Ramadan. Allora, lui fa, è molto liso alla sua religione. Però, per esempio, quando gli succede magari un problema alla macchina su cui lavora, dice, io non ripeto le bestemmie perché non bestemmio, però bestemmia, diciamo, i santi che abbiamo noi, no? Mm. E allora, è normale secondo te? Cosa? Cosa vuol dire? Che non sono i suoi? è sempre male bestemmiare, ovviamente. Allora, ma se tu fai Ramadan e poi dici sì, no. No, va bene, ho capito qual è la cosa. Tu stai descrivendo quello che è successo, cioè lui bestemmia un'altra religione. Vabbè. Ma hai appena fatto una cosa gravissima, tu. Sì, imbecille. No, sta descrivendo una cosa, descrivendola sì, a bestemmiare, per cui sei un coglione, Giuseppe, perché non occorreva farlo. Non occorreva la descrizione. Veramente una persona maleducata e anche volgare verso chi crede. Lui ha ripetuto quello che stava dicendo quello. Lui è un cretino. Però lui abbiamo è un capito cretino. Senza bisogno. Senza... tutto un leccaculo di merda. Tu sei un cretino perché hai bestemmiato. Tu devi stare solo zitto perché hai bestemmiato. Devi stare solo zitto. Attenzione. Sei una persona che ti sei già descritto da solo per quello che hai fatto. Quindi stai zitto. Posso dire una cosa però, Giuseppe? Non aveva bisogno di dire niente. Non aveva bisogno. Infatti è un coglione. Però non è che ha bestemmiato. Ha descritto quello che ha fatto. Però non siccome ha criticato poi l'altra religione di quella. Alto. Comunque è un gran maleducato. Vabbè, Giuseppe, gran maleducato. Coglione, va. Ciao. Allora, leggo qui che c'è in collegamento Lady De Monique, giusto? Sì, eccomi. Lady, che c'è? Dimmi tutto, dimmi tutto. Ciao, allora, io volevo dire un paio di cose. Praticamente, io non ho ancora ripreso a vedere gli Slave. Ah, non hai ripreso a rivedere gli Slave, questa è una notizia. No, assolutamente no. Beh, perché potresti riprendere a strizzare coglioni, gli Slave, gli schiavi. Potresti gli riprendere, schiavi. Gli schiavi. No, ma potresti riprendere a strizzare coglioni, non mi sembra che ci siano delle, cioè anche all'interno della Lombardia dove sei, cioè Lady. No, vabbè, mi pare che diciamo ci sono che già problemi. Io non mi sento sicura di incontrare Slave, sia per la mia incolumità, per la mia salute, che per la salute degli altri, collettiva. E penso che il coronavirus ci abbia dato, ci spinga a riflettere sul fatto che queste professioni debbano essere legalizzate in maniera tale da renderle sicure. Cioè, allora, diciamo, Lady De Monique fa, diciamo, la dominatrice, si fa pagare per fare la dominatrice, per strizzare i coglioni, per mettere i piedi in bocca, per fare delle pratiche anche dolorose nei confronti di maschi. Dolorosissime. La pratica più dolorosa è quella, secondo voi, è quella di inchiodare i coglioni. Di inchiodare i coglioni. Cioè, lei inchioda. Mamma mia, però, mamma mia. Al di là di questo, lei dice quanti soldi hai perso, Lady, in questi due mesi, diciamo? No, vabbè, ma non mi interessa dei soldi, perché tanto io vendo anche video online e quindi c'è le entrate. Però tu dici che non avete avuto nessun supporto da parte del governo, per esempio, no? Io direi che il coronavirus potrebbe portarci a riflettere sulla situazione sia delle mistress che delle escort. In che senso? Scusa, spiegami. Nel senso che possono essere potenzialmente dei veicoli per il contagio del coronavirus. E allora? E quindi se noi come società apriamo gli occhi e legalizziamo tutto, dici? Proviamo a legalizzare tutto. A quel punto arrivano dei negozi, proviamo a pensare che le dominatrici, come le escort, vengano equiparate a tipo l'estetista, perché dall'estetista giusto. Ci sono delle mi sembra difficile. No, però scusami, Lady De Monique dice sostanzialmente questo e va seguita in questo percorso. Lady De Monique cosa dice? Chi strizza i coglioni, chi inchioda i coglioni, procura un vantaggio, cioè procura un godimento. Ma tu ti immagini lei che vada al Premier Conte con la sua delegazione di schiavi? No, lei cosa fa esattamente? Io simpatizzo tantissimo Calenda, ultimamente ho imparato a Però non lo dica. Però posso chiedere, guardi, le posso chiedere veramente una gentilezza, può non dirlo? Perché se c'è un movimento serio è quello di Calenda. Se lei io fossi in Calenda la denuncerei, ad esempio, io farei querela. No, perché? Non lo ripeta, per piacere. No, perché non è avere un elettore che, diciamo, si contraddistingue per inchiodare i coglioni a una persona. Io non credo sia una delle ambizioni di una delle poche risorse che ha questo paese. Meglio di me saprai che le persone non si possono contraddistinguere solo ed esclusivamente per una caratteristica. Se lei simpatizza, però se lei simpatizza, non lo dica. Guardi, le fa un se lei simpatizza e vuole fargli un favore, io non lo dica. Calenda in diretta. Tra l'altro, gli ho anche scritto una mail. E lui non ha risposto ancora. Allora, caro Calenda, che tanto ascolto ogni tanto la Zanzara, ecco. O i suoi collaboratori. Sì, ma non, c'è una signora. Possiamo non danneggiare il Movimento Azione, per piacere. Allora, c'è una signora che si chiama Lady Demonique. Lady Demonique, ecco, che è specializzata nell'inchiodare i coglioni dei suoi clienti barra frequentatori, facendosi pagare, che è una lavoratrice come gli altri. E io credo che, ed è una sua simpatizzante. Ma tu vorresti, scusi, Lady. Io produco video, non produce opere che resteranno nella storia della cinematografia italiana, quello lo possiamo dire, però sono Fellini, però scusi, io voglio capire una cosa, cara Lady Demonique, vorresti incontrare il signor Calenda o no? Mi piacerebbe tantissimo, anzi mi possiamo non danneggiare ulteriormente con Calenda. Sì, questo mi sembra molto buono. La signora Lady Demonique, questa Lady Demonique. Comunque Lady Demonique vorrebbe, non ha detto una cosa sbagliata, ha detto che bisogna sostanzialmente legalizzare, in modo che se ci sarà una nuova ondata di coronavirus si potrà controllare meglio le persone che sono infettate o non infettate. Cioè, esatto. Grazie, cioè, Lady. Io dico che... Grazie, okay. Lady, grazie Lady. Ciao, grazie. Ciao. Filippo Lacagliari, vai Filippo. Sentite? Dimmi. Sentite bene? Allora, dopo aver sentito nell'ordine puttane, puttanieri, gestori di bordelli, sì. Ho deciso di intervenire relativamente alle cazzate, chiedo scusa innanzitutto a Parenzo per le parole, ma sì, per le cazzate che sono state dette in questa trasmissione relativamente ai sardi. In che senso, scusa? Ho deciso, nel senso che ho deciso di chiamare. Sì, ma non mi interessa perché hai deciso di chiamare. Di quello che devi dire e non ci rompe. Esatto, dai. Lasciamelo dire. Quindi, prima di tutto, ha chiamato uno stronzo di nome Marco che ha detto che i sardi fanno solo allevamenti di capre e cazzate. Ma qui si varie. Sta parlando di un'altra cosa. Qui si sta parlando di un presidente di regione, non dei sardi, del presidente della sua regione, signor Solinas, che vorrebbe in qualche modo bollare quelli che arrivano, e imponendo a quelli che arrivano un test sanitario che non ha nessun tipo di validità. Non ci può essere, come ha detto giustamente per una volta il ministro Boccia, e che limiterà fortemente gli arrivi in Sardegna. Punto. E questo è quello che penso io. Non è detto che li limiterà, perché lasciami parlare perché io sono un giovane tossicologo e quindi sono immerso in quello che sta succendendo oggi. Ma non mi interessa, tu puoi essere anche prima di tutto tu non sai che non è leghista Solinas, bensì fa parte di una coalizione che è stata annoverata nella Lega, prima cosa. Seconda cazzata, non può essere un leghista. Non stiamo parlando di seconda cazzata, non si è informato che proprio nelle ultime ore nel policlinico di Monserrato c'è stato un nuovo focolaio, c'è stato un boom. Ma cosa c'entra? E guarda caso, proprio per dei pazienti provenienti dalla Lombardia. Ah, ragazzi, ma chiudetevi. Benissimo, allora non fate venire i lombardi. Benissimo, chiudete a quattro mandate. Ma chi parte si deve fare un test, ma è così difficile da capire. Non hai capito. Non c'è nessuna validità. Ma non c'è la Sardegna, lo rimborsa pure. Pensa che scandalo, ti rimborsano pure il test. Sono talmente gentili che ti dicono: parti sano, vieni qui e ti rimborsiamo pure il test. Fermi tutti, italiani. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Un poveraccio sta prendendo il sole, la polizia su quegli scooter.